e si mette, poi c'è fa una specie di scatto, fa la pomella quando lo posizioni e ti dà esattamente 13,8. Se poi tu lo controlli col test ti dà 13, quasi 14 ti dà, così quasi 14 lo faccio quel pompino. Proprio perché tanto quando è importante con questo si risucchia tutti, se lo abbassa il voltaggio anche, però niente, meglio lasciarlo così e va bene, perché questo microfono comunque dovrebbe scaricare abbastanza bene, assolutamente, è un buon abbinamento, non è mai come l'MC60, però diciamo che lo fa viaggiare lo stesso, dai. Positivo, dai, che questo lo sto operando io adesso, cosa ho fatto? Io l'ho messo a 13,9, l'ho messo, perché questo saliva sino a 20, cioè il pomello, questo è stato per adesso alimentato, sale sino a 20, e io cosa ho fatto da dentro? L'ho regolato al massimo di potenza e quasi 14, quasi, non arrivo, 13,9. Al massimo di, per non sbagliare, a volte non me ne accorgo, me lo riporto e gira, arrivo quasi al finto di questo, e mi poteva far danno, e allora l'ho fatto da dentro e me lo spiego a 13,9, non 1,8 ma 1,9. Mi è sembrato di sentire un break, che proprio lo chiami tuo nipote, si affaccia, avanti il break. Ciao, sono Andrea. Dammi il nipote. Ciao, sono Andrea. C'è qua. Ma scusami, questo bambino pensavo stesse modulando, fosse il figlio di tuo figlio. Avanti Andrea. Come vi sentite? Ci sentiamo una bomboletta, stai arrivando una bomba. Avanti Andrea. Da dove stai modulando? Io sto modulando da Sierra a Sierra, e tu da dove stai modulando? Che io. Ah, Roger. E di chi è quella la stazione, di chi è? Andrea, se non ti chiamo Pinocchio. Andrea. Non lo sento qua. Quello è qua vicino. Tu sei vicino a me, Andrea. Vieni avanti, Andrea. Ciao, eccolo. Ciao, Giuseppe. Sento Fabrizio, Scusami, Fabrizio. Minchia, ti sento talmente basso che pensavo fossi Giuseppe. E ciao anche ad Andrea. Ma non siete al QTH fisso, no? Saltano i due. fusibili, ma a prescindere da quello questi sopportano degli sbalzi almeno di 3-4 watt prima di creargli problemi. È meglio non esagerare, però prima gli stavo dando un voto in più perché vedevo che come schiacciavo portante si abbassava la lampadina dello smitter, quindi pensavo fosse sottoalimentato, capito? Vediamo un attimino se è rientrato Alessandro Conan. Attenzione Alessandro. Importante c'è. Non penso, non credo, Alessandro. Sì, questa è una portante. Però abbiamo lasciato un attimino il parcheggio a parlare di quella Gianni. Che non vediamo, allora erano sul 5. È positivo, dai. Lui sta ascoltando. Scusa, io pensavo che fosse sul 5. Ci siamo spostati in effetti, non pensando di ritornare lì. No, sono io che ho girato, perché prima la mia cosa è andato e stavo facendo ascolto, non c'è problema. Continuate. Sono qua. Dai, no, infatti siamo passato perché stavo spiegando di prestare radio a Coso e poi adesso mi sono ricordato che abbiamo lasciato a Coso la barra agricola a Gianni sul 5 e glielo stavo ricordando a Antonio. Gigi, conserva i soldi per il tesseramento. Ne trovare a me, vabbè già sono qua io. No, ma di tuo nipote, Vulcanino voglio, che ci servono ragazzi. Canino adesso nel meglio di giocare, capito? Se ti vuoi mettere la vetta che ore sono, eccola seduta a tavola, giù, in veranda, eccola seduta a tavola. Cava, cava, che ore sono? Le 4:10, dai. Le 4:10 sono fatte. Ah, no, oggi non è una giornata troppo calda, però scenderà male, stamattina non mi auguro, sicuramente è buia. Guarda che c'è un po' di maestrale e poi la temperatura si sta abbassando. È meglio così, dai, così è più, c'è più aria, è più fresco, dai, si sta meglio. E ieri notte non c'è neanche condizionatore, nulla. Si è dormito bene, si è riposato bene ieri notte senza accendere nulla, dai. E oggi si sta bevendo qua, c'è una finestra aperta, c'è una bella arietta e si sta bene alla grande. Sono metà di settembre il mercatino, ne facciamo due, ne facciamo uno in piazza, come si dice, in piazza Zuni e un altro a Porto Torres, lo faremo. Io, è positivo, e c'era quello di Milano, era con l'amico mio, mannaggia la miseria, poteva prendere un po' dei baracchini, tanto costavano tutti a 5 euro l'uno, e un mercatino dell'usato che c'era lì a Milano, era lì, di... la moglie ricoverata per una settimana, stava facendo un intervento agli occhi, mi pare, o cose del genere, è rimasto lui ieri a fare compagnia alla moglie e l'hanno portato in questo mercatino, un amico camionista di zona di Oristano. E c'erano addirittura vendendo baracchini a 5 euro l'uno, compresa anche la scatola, addirittura col microfono compresa, e funzionante pure, capito, a 5 euro l'uno addirittura. Capo, anche se fossero stati a 10, dice, da fare un'imbarcata, dopodiché o te li rivendi su eBay, o comunque li smerci, li tieni, fai quello che vuoi, figurati i pezzi di ricambio, finali, ce ne sono poche di quelle, se non si possono cannibalizzare. No, ma infatti è quello che vogliamo fare, cioè realmente far sì che le persone tirino fuori questi finili a favore di qualcuno che li può apprezzare. Io positivo, l'ho detto anche per una ragazza che sarebbe la via di una galapola in questo bar qua, no? Un bar vicino da me lì, e adesso mi ricordo il nome d'attivo di quella ragazza che è morta, non mi ricordo quanti anni ci aveva, ma quella malattia, come cavolo si chiama, mannaggia la miseria, quando per esempio bisogna di trasfusione di sangue, adesso mi sfugge il nome. Leucemia? Non è leucemia, l'altra. Parassemici, mi sta dicendo mia moglie. Parassemici, così. Esatto. La mia mediterranea. Bravo, bravo, bravo, campano di una certa età, è quella, parlava al baracchino, e c'ha tutti ancora da casa della madre, e questa, dice la mia nonna, ci sono di questa mia zia, baracchini, queste cose, ho detto anche l'altro giorno, ho detto, Tanto ha detto sono già belli che rovinati, questa cioè, che c'è lì. Tanto ha detto tua nonna, ha detto se viene a fare per il ricordo della figlia. Al limite ho detto ce li fa bene, le metteremo in un mercatino, in qualcosa, faremo qualcosa e poi quello che riusciamo a togliere a recavare te lo diamo alla nonna, lo diamo a te, a questa ragazza, e per ricordo, se poi te le vuoi tenere, tirili, sono tutti questi baracchini, queste cose che ho per fare, dai microfoni, cose varie, capito? È morta già un po' 3-4 anni questa ragazza. Ma il nome me lo dice sempre, però non me lo ricordo, ma c'è manco un nome attivo a baracchino questa qua, Sassari. Nome attivo? Chiediamo a Gianni se lo ricorda. Ma sai, non lo so, è morta, me l'ha detto 30 anni, 29 anni o 32 anni, non me lo ricordo, è giovane comunque, è morta. Mi ricordo che ce n'era una che modulava da lì, punto, che è morta, ma non mi ricordo come si chiamasse di nome nativo. L'avevo saputo che era morta, ma proprio per via traverse. Non è da poco, perché l'anno scorso quando glielo chiesto, mi ha detto, sì, ma è da poco, è fresca la cosa, dice, lasciamo passare un po' di tempo, infatti l'ho detto anche da poco io, questa ragazza, lavora qua al bar, qua vicino a me, ed era nipote questa, e la zia, e l'anno scorso, sai che è morta un paio d'anni questa cosa, questa qua. Prima era da parecchio che lo toccava a chiamare la madre. Sì, quello sì, però prima ce l'ha tutta l'attrezzatura, tutta la cosa, c'è a casa sua, capito? E io infatti l'ho fatto questa proposta a questa ragazza, e tanto non se ne fa nulla, non ha tua, ce l'ha lì. E dice, no, ci ha toccato nulla, la cameretta sua, ci ha lasciato tutto ancora come quando c'era lì. E vabbè, detto, se se ne vuole disfare di questi apparati, vediamo cosa sono, cosa c'ha, e possiamo mettere in vendita e ricavarne qualcosa. E si dà la nonna, quello gli ho detto io, poi faccia quello che vuole. Beh, certo. Ce ne sono tanti di apparecchi in giro che non stanno più utilizzando, sicuramente se sanno che è, qualcuno lo metto. Cosa che molto spesso queste persone non sono disposte a dare queste cose perché gli ricordano la persona che è venuta a mancare, quindi è un po' difficile, capito? Non è una questione di soldi, è proprio una questione di ricordo, è la cosa più difficile. Ma ti ripeto, io che spesso vado a Milano, se mi tieni informato su qualche mercatino e capita il giorno in cui ci sono, ne compro oppure lo dico a un amico che abita lì, me ne faccio spedire un pacco, capito? Dice, c'è andato questo amico, ripeto, dice, io l'ho trovato pure, l'ho trovato, parliamo di qualche mese fa, dice, guarda, ero lì a Milano, sono andato per questa cosa, dice, mi hanno portato a questo mercatino, ma non è che c'erano solo baracchini, c'era di tutto, c'era, però dice, c'erano microfoni, c'erano, addirittura c'è con la scatola, tutti a 5 euro, e con la scatola addirittura c'è, avevano anche la scatola, col microfono, e funzionanti pure, capito, anche il microfono ci avevano solo. Ma lì fai l'affare, ti spiego perché molto spesso quando liberano chiamano le persone, loro i milanesi non si sporcano le mani perché non hanno tempo da perdere, perché stanno lavorando tutto il giorno, perché loro vivono per lavorare, al contrario di noi che lavoriamo per vivere, giustamente. Quando hanno qualche problema, tipo svuotare una cantina, chiamano gli svuota cantine e dite tutto, da buttare tutto, questi qua chiaramente valutano la roba, invece di buttarla la vendono, la rivendono in mercati, ma molto spesso di fronte anche a un apparato, ma può essere un Kenwood, magari loro credono che sia tutt'altra cosa, no? Che non sanno né il valore né tantomeno a cosa serve, quindi fanno un prezzo forfettario in base a cosa sembra e magari te lo ritrovi in vendita a 30-40 euro, capito? C'erano tutti i baracchini e c'erano faglietti di tutto, c'era detto, ma 5 euro era, 5 euro l'uno, compreso il microfono e dice che certi avevano anche la scatola, con la scatola, compresi di scatola, erano tutti a 5 euro l'uno, sapete, baracchini per onore del professionale, baracchini a fagliette, c'era la scritta, dice qui questi baracchini così, tutti qualche 48, 68, tutti a 5 euro l'uno. Quando così fai chiudere la bancarella e dici la compro tutta, dico quanto ne avrà? 10, 20, nel momento in cui sono a 5 euro, con 100 euro te ne compri una ventina ed è fatta, te ne rivendi a 15 euro, 20 euro in una e stai triplicando la cosa. Comunque, mantenere bianco per me, scusate, mi riprendi Gianni. sa pagare. E così era io, Alghero, nelle bancarelle c'erano gli occhiali da vista a 3 euro. Vabbè, quelli da vista proprio da essere un po' attenti, capito? Non è una cosa sugli occhi, sulla vista non c'è da scherzare, capito? Se tu mi dici quelli per leggere da vicino, quelli sì, vabbè, sono numerati, lo sai più o meno, ma quelli per vista proprio per vedere da lontano il coso, quelli no, e quelli bisogna... più 1, ci sono le gradazioni, no? 3 euro l'uno, ma ne ho preso uno, un paio, ho detto così almeno, quando me li dimentico al lavoro, se devo accendere il computer lo vedo bene, almeno ce l'ho un paio di riserva e via. Oh, ci vedi bene, perché io ieri ho usato il computer e si vedeva benissimo. Rientrato e sentiamo le prossime, buon divertimento. Ma c'è Antone, mi senti? Chi era questo? Antonello di Rio si era, o di Vivi? No, Antonio, non ho capito. Ma sono entrato, ho fatto un attimo di bianco da ieri, niente, vi sto salutando, allora, più tardi allora. Papà, ciao, buona serata, ciao Antonio. Non ho capito, ma prima non c'eri, però sei entrato adesso. No, ho fatto bianco ieri, e sto chiudendo adesso. Ho capito, sei entrato adesso a salutare o a fare che? No, da ieri che sei entrato, da stamattina ti ho sentito io, o ieri, no, stamattina che stai dicendo? Ah, ho fatto il bianco stamattina, vai, adesso vi sto salutando e chiudo adesso, vai. Già, no, prima del pranzo mi pare che ti ho sentito. Ho acceso veloce e veloce, adesso devo fare una piccola commissione, comunque buonasera a tutti, buonasera Gianni. Ma poi dopo non ti sento, ma non ci sei più sul 21, intanto giro ma non c'è più nessuno. Antone, io se devo uscire, dico la verità, esco, non è che sto sempre attaccato all'apparato. No, no, ci sono, quando sono a casa ci sono, non c'è problema. Ma se vedo che c'è caldo e cose, quindi me ne esco a prendere un po' d'aria. Ed eccolo già il bello, con questi giorni. Dobbiamo prendere un pochino di aria, vai, scusate, giustamente devo fare il break, e poi, giusto, era un piccolo scherzo, vai, va bene, buon proseguimento, ci sentiamo più tardi. Non ti mettere problemi, ciao. Avanti, Gigi. Non è, ma ce ne sono problemi, ora siamo in pochi, quando è una ruota grande allora uno può fare anche il break, ma quando siamo in pochi, così siamo in due in questo momento, no. Non c'è bisogno di breccare, dai, basta fare chiamata e poi sempre entrare, e non c'è problema, non c'è, basta bussare e le porte saranno aperte. Già, vi ringrazio, dai, buon divertimento, a più tardi allora. Poi se volete passare una serata diversa alle 5.30, esattamente alle 17.30 c'è la sagra di San Matteo a Vissa, a Ussi. Potete fare un salto, mangiate e ve ne ritornate a casa con la faccia piena. A voi la scelta. Ti ringrazio Antonio, io te l'ho detto, io domani devo lavorare. Non posso stare tutta la notte in bagno, hai capito? Chi se un grassa e mi fa effetto brutto a me la matalrissa, capisci? E vabbè, ci ho provato, dai. Grazie per l'informazione, Antonio. Quando ero piccolo ce la faceva mia madre, ma è grazia a me, quella mamma mia, sta mal di pancia per te, sta un in bagno dopo. Allora, mia mamma me lo fa anche il porcetto. Ma questo, quella è peggio del porcetto, è proprio il grasso, la fanno con il latte grasso della pecora, capito? E mi pare c'è qualche farina in mezzo, non me lo so, fare una matavrisa fatta un po' tipo formaggio con la farina, con tipo una cosa di... il grasso proprio, mi fai pesato il grasso del latte, capito? E sai come lo fa andare di corpo, mamma mia! Per purificare il cretino, se... Fai, io domani devo lavorare, e allora mi tocca sempre viaggiare cercando un campo d'atterraggio. Mamma mia, quanto deve essere brutto quando si è furi, ui. Io bene o male che vada da un negozio all'altro. Positivo, no, l'altro giorno l'ho detto, ma così mi è venuto spontaneo, l'ho detto, ma adesso sarò quasi un annetto. annetto, ho detto, quasi un anno ho detto che non mi viene, diciamo, viaggiando, e a casa già mi è capitato, essendo qui a casa mi è capitato, però viaggiando di avere cose da andare in bagno, no, sono da parecchio tempo viaggiando a Cagliari così, perché è brutto, mi, se ti viene un mal di pancia, una cosa, se trovi in strada non trovi, è un casino, mi. Poi succede che se viaggio tutti i giorni può capitare, però ho detto l'altro giorno, tra me, ma da parecchio che non mi capita di venire un mal di pancia così viaggiando, è da parecchio. Mi ricordo che un giorno, tempo fa, più un paio d'anni fa, se non di più, pure o tre pure lì a Inglisia, salendo quell'auto grigio che mi sono fermato, ho mangiato, e non mi frega più, non mi frega più, quei tramezzini con gamberetti, con la salsa rosa, che cavolo c'era in mezzo. Ehi, ma non sai come fai, ma pressione la pancia, ehi, ma gatto, ma crepato il giorno, Senti, blu blu blu blu blu blu. Cioè, non ne prendo più, era tra mezz'ora, sai, c'era una specie di salsa rosa in mezzo e gamberittimi, capito? Madonna, gatto, mi ha fatto mal di mamma di pancia, magari non erano freschi i cibi, e solitamente no, già li conosco quei tramezzini, è fatto cosa salosa con ketchup e maionese mischiati e gamberi piccoli senza testa già sgusciati, e ho capito, magari o non era fresca la roba di mare, perché tante volte la roba di mare crepa, a me il mio dottore mi ha detto, io siamo andati, abbiamo mangiato, ho fatto la bufata di roba di mare in ristorante, eravamo in tanti, eravamo una decina, beh, solo a me ha pizzicato a diarrea che non ne potevo più. E il dottore mi ha detto, cosa hai mangiato? Frutti di mare per prima cosa, Ho detto sì, cozze c'erano. Ho detto sì, ho mangiato anche le cozze. Mi dice, basta una sola. Perché gli altri però gli ho detto, non ha fatto una, sì, ma basta una sola, che capita a te che te la mangi e ti futti. E io l'ho fatto una volta, prima è partito, il giovanino originale. Facevo scendere la paglia e tornare a entrare, la volta male. Ci sono andato pure io una volta, l'ha fatto pure a me a mal di pancia, ci sono andato una volta. Ma lui era entra, esce, gatto, questo, proprio gli ha fatto male queste cose di mare, questi frutti di mare. E ha fatto male a me così. Ma non è che io sono andato in bagno e mi ha fatto mal di pancia, una volta, ma lui ci è andato 4-5 volte di seguito, andava che proprio a mal di pancia, cavolo. Il primo anno che siamo andati lì a Borgomanero. Sicuramente era quei frutti di mare che ha mangiato, ma vuole venire a fondarsi di bagni in chilo, era un casino. Lo so, è brutto perché, specialmente per chi si trova nella strada, e cosa fa? Devi certificare il capo atterraggio, perché che ti succeda come è successo a me, vabbè. Andava a cosa, la catechetica volava perché c'era un vento. Positivo. E poi anche in aeroporto, lo ricordo anche in aeroporto. È dovuto andare a cercare il capo d'atterraggio. Mamma mia. I frutti di mare sono cose che devono essere fresche, se non sono freschi fanno male davvero. Ti crepa, non basta uno che si appena guasta e cose che ti crepa. Ma solitamente quelli guasti te ne accorgi, no? Sono a sapore cattivo. Positivo. Ma una volta, ripeto, mi ha gonfiato pure a me la faccia, sentivo. Sono venuto a andare anch'io durante il pranzo, la nottata di quasi ha terminato il pranzo, che me l'ha fatto pure a me. Ma lui ci andava di seguito e poi non mangiava più niente, non mangiava più altro niente, proprio per quel motivo lì, ma questo è il primo anno. Ma cioè, il secondo anno, non me la metto una cosa, forse no. Non abbiamo mangiato, non ci ha fatto niente. Ma sai cosa c'è? Che quando va a questi pranzi qua, mangi mille cose che non mangi tutti i giorni, non sei abituato e il fisico anche non risente. Perché assaggia una cosa, assaggia l'altra, mangi sempre un bel. Anche se le mangi poco di uno, poco dell'altro, sempre mangiato un bel. Ma è vero, è così, perché tra tante cose fate con questa specie di crema, questa pasta, queste cose, così di raffa e quelle, quella tutta roba, molta roba grassa, e questi, capite, questi e questo pesce che lo passano così, e quest'altra cosa di antipasto, è così, è vero, anche quello è vero, capito? Anche quello già può essere che non si è abituato con questa carne, queste cose invisibili, tipo fette di prosciutto, questa carne o con questo, si chiama tonnata, o quella carne, quella tagliano a, non so se la tagliano con la fettatrice, quelle fette di vitello, che con le trafandano tonnata. Mister Tonnet. Quella lì, vedi, ti danno quella carne lì, il pesce c'era una soglioletta, forse era una cosa invisibile, era, che te l'hanno messa nel piatto, il pino è tutto, se vai a togliere la cosa non c'era, era invisibile. Vabbè, comunque assaggi una cosa, assaggi l'altra, e magari mi facendo questo miscuglio di cose, una contrasta con l'altra, e poi il fisico si ribella. Sì. No, questo era più bello, questo di ricordo, ma la grigliata del pesce era favorevole, questa di qua ho fatto qui a Borore, minchia, questa cavolo era spettacolare, la grigliata di pesce, il porcetto non se ne parli, ma almeno lì non era chita tornata a pettini sottili, e non che mi ero cucchietto, ho messo davanti qualcosa in sughero e con le patate al forno. Il porcetto a volontà è buono, poi la grigliata del pesce era bella, perché erano messe importate quei cosi di sughero grandi, no? Con il castagnolo, è tutto pieno di quei gamberoni, quei scampi aperti, orate, tutto arrosto, fatte arrosto, gamberoni, calamari, tontani, fatti tutti arrosto, capito? Bello, ragazzo, bello col limone lì, spettacolare, cavolo, bella grigliata di pesce, bella veramente. Aspetta, poi fatte la vita, qui sono eccezionali. E lì poi si va a cosa, non possiamo paragonare la roba che cucina nel continente con quella che cucinavo qua, i sapori sono diversi da poco di fa. Dico, bella, io ho mangiato due gamberoni di quelli enormi, buoni, poi fate arrosto, una grigliata era me. E un'orata, però non ce l'ho fatta mangiarmela tutta, l'orata, dico la verità. E un pezzo di tonno che ho mangiato arrosto. E poi ho mangiato pure. Però, ripeto, mi ho messo un'orata, me l'ho messa intera e non ce l'ho fatta. Dico la verità, me l'ho mangiato più della metà, ma non ce l'ho fatta a mangiarmela tutta. Perché mi sono mangiato due o tre gamberoni. E non c'era un altro da guardare, bella, quando ho messo qualcosa davanti era spettacolare da vedere, guarda, da capo, tutto misto di pesce buono, dai, bello, proprio bello anche da vedere, da gusto, quando te lo mettono così, è abbondato, lo mettono davanti così, non è che te lo servono loro, tipo non è un gambero, una cosa, non ti prendiamo col comanero. No, guarda, come sono, ti mettiamo nel porcetto e ti mettiamo nel vassoio davanti, capito, a prendere quello che volevi. E quando si vedeva che stavano finendo, ne portavano ancora altro, capito? Aspetta, allora la cosa ben fatta, come si usa qua. Lo so, è un diverso modo di vedere le cose, a noi ci piace mangiare, e chi dà ragione. Lì si limitano anche nelle cose. A noi ci piace mangiare bene. E lì passavano, ti servivano loro, e inoltre che ti passavano, e ti mettevano con la portata, passavano col vassoio e ti mettevano 3-4 ravioli a morire, e continuavano, non di più. Poi ripassavano e ti mettevano, non so, un altro tipo di pasta, ma una pochettata. E così facevano quella cosa, tornavano anche con la tipata tanto, e ti mettevano un cucchiaio di dosa, passava e ti muovevano una fetta di affettato, capito? E ti mettevano il vassoio, ti mettevano una fetta, hai capito? E niente, non era nulla appello, perché poi deve aspettare una fetta all'altra arrivare. Volevo vedere che arrivi a metà, che erano parecchie, eravamo in parecchie, è una cosa lì, buh. No, invece una cosa è quando ti servi tu, ma ora ti puni a poi passare un video cosa, non ho fatto tu una fettina di quello che ho appena appena su e tu sopra. Hai detto va. Era uno siciliano per la metà questo, c'è un po' femmine grasso, maturo, quando passava perché quando è passato vedo cosa, ha detto, ma che cosa mi metti solo quattro ravioli minori? La fuccio qua. E poi è passato un altro tipo di ministro, ha detto, poco per cortesia, non esageri, ha detto, non esageri Barossa, se poi la truppa. Ironicamente naturalmente, no, non ti friccano. Come si chiama questo posto? Non mi ricordo come si chiama. Ecco, così me lo ricordo bene e cerco di passarci sempre più lontano possibile. No. A me mi piace quando mettono il vasso e ci puoi servire, ma io tutte le volte a mattino uno, diciamo, quando siamo al turista, sempre mettono il vasso, boh, è strano che passino così, cazzo, si è roba puntata, gruppo. Sì, no, ma a me, vedi, no, la pasta, queste cose così, non mi interessava, guarda, anzi a me mi stava bene che me ne metteva, poi passava, se ne volevo, no, e non le volevo altro, dico la verità, a me mi andava bene che me ne mettevo un ciuffetto di una cosa, un ciuffetto, mi stava bene, capito, ma poi quando devi mangiare un affettato, ti passa e ti metto una fettuccia di affettato, che cavolo. E poi, i vetri, invece ne mettevo una fetta e se ne andava, capito? Una fetta sola te ne metteva, me ne piace. Ma ricordi? Ehi, Antonella e Claudio. Stavo dicendo, mia moglie c'è questa massa fissa a cosa usi. Dice che è molto buona, io non l'ho mai mangiata. No, è buona la massa fissa, bravo, è buonissima, già. È buona. È quello che ti ho detto, la faceva mia madre, dai, se la faceva, ma come si fa dal coso del latte di pecora, dal latte il grasso tipo quello che si fa per fare il formaggio, non so, mi sa che si aggiunge un po' di farina o qualcosa del genere, si fa un impasto tra questo latte grasso e un impasto di farina e si fa nel tipo si cucina, capito? Adesso non mi ricordo bene quali sono gli ingredienti, fa una cosa del genere, capito? Gappa. Solo che ricordo di essere pulito, perché la fanno a quest'ora? 4:30 sono giusto. Ah, è tanto già, non ti preoccupare, non è che te ne danno tanto, non credo, tanto sarà anche a pagamento, se ti daranno qualcosa, capito? Credo che sia così, ma te ne danno un po' nel piatto con una forchetta di plastica, te ne danno nel piattino di plastica con una forchettina di plastica e l'assaggi, capito? Sì, ma tanto non è che vai per mangiare, vai per fare qualcosa di diverso, non è che... Tanto mio, vai al Ghero, che sta giù in zecca di parcheggio, mamma mia, è un casino. Al Ghero non si può più andare. Hai visto la razzia che hanno fatto, i carabinieri all'Al Ghero ieri? Allora, cosa hanno fatto? Cosa è successo per te? Stanno fermato, non letto il giornale, hanno fermato praticamente tutte le macchine che passavano, c'era non so forse pattuglie di Palmado, di Alghero e cose, hanno fatto proprio piazza pulita, hanno arrestato gente, hanno trovato droga, hanno trovato uno che non aveva mai preso la patente, stava guidando tranquillamente, uno senza assicurazione, altri due con la droga in macchina, due imbriachi, la nebbia della patente e uno glielo sequestrato anche la macchina perché non era in grado di guidare. Allora ha fatto qualche controllo a tappeto proprio, ecco perché. Comunque già cosa ti dico che ti conviene farti un salto, dai. Tanto non c'è caldo, c'è fresco, a Ussi è vicino, vai lì, fai un salto, sei a Ussi, assaggia la mazzavrista tua moglie, che forse capito, l'ha già assaggiata, forse l'ha già mangiata. Non l'abbiamo mai mangiata, io non l'abbiamo mai mangiata. Infatti per mazzavrista io pensavo che la roba di intestino, roba così, di budella, capito? No, è una pasta, rimane, come ti posso dire, rimane un coso tipo formaggio fatto, cucinato, mi sembra un formaggio grasso grasso cucinato, hai capito, filante, è un tipo un formaggio filante, mi capito, già. Appagato. Ah, sì, ho capito. Ho capito. Vabbè. Adesso vediamo, mi se ne auguro, perché troppo presto mi sembra per andare. E noi volevamo uscire a tarda ora, non ce la faccio un giro. Appagato. Adesso vediamo, se ne auguro, andiamo, ci facciamo un salto. Adesso faccio un riposino, poi vediamo un pochettino. Beh, io ti saluto, ti auguro buona serata, che sto chiudendo, che faccio un po' di positivo. Positivo, forse se la sarella già una mazzata grissa, perché se no c'è una numero più. Comunque non è mazzame, è la latte, si fa con latte, tipo il formaggio, e poi si fa cucinare nel piatto caldo di filante, tipo formaggio filante, tutto sciolto, cremoso, tutto filante, capito come? E penso che si fa tipo il formaggio, no? Il formaggio fresco, e poi ne mettono in mezzo forse un po' di farina, adesso non mi ricordo cosa gli mettono in mezzo, lo impastano, lo fanno, lo mischiano e lo fanno cucinare. Lo fanno friggere, questa cosa diventa un formaggio filante, mi capito cosa rimane, tipo il gusto del formaggio, c'è cioè il formaggio filante, mi filato tutto sciolto, crema. Appagato. E dai, io non ho mai città, non è roba che si mangia qua in città, E quindi a gustarla. Allora dai, ci sentiamo, andiamo simili. Mi ha fatto piacere aver fatto questa chiacchierata. Ci sentiamo. Ciao, saluta perché è grande, se rientra. E mio figlio sta facendo i capricci qua. Adesso vediamo un pochino di sistemare un po'. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Attento, Gigino Vulcano, cambio. Attento, Gigino Vulcano. Attento, Gigino Vulcano. Ecco, seminario 10. Non so, io ci avevo smentito l'accesore, se ti ho sentito, sono andato. sentito la verità. Aspettando, hanno lo piano per quello. Io di te. No, no, assolutamente no. Allora, vediamo. Adesso la sera è bella giornata, siamo al venticello leggero, non c'è molto freddo. Se ieri sera questo là c'era quel vento freddo, era super blu. Sì, no, ieri sera c'era freschetto, ieri ci voleva un filo anche, la barbetta leggera ci voleva ieri, tutti. E stasera sembra che stia rinfrescando lo stesso. Non ci sia quel vento caldo dell'altra volta, se no un bel casino, troppo caldo sta facendo, non è cosa da scherzare, no? No, infatti, ho stato male, ma male il giorno scorso, la notte scorsa, non tirava un filo di vento. Porca di quella la rossa, mannaggia, cioè si sta un po' rimettendo bene il tempo, diciamo. Esercizio binario di Ecci. Capito qua? Esercizio binario di Ecci, Gambio. A quanto su binario di Ecci? Buonasera. Ciao. Che sarà il treno? Ciao a tutti, sì. E allora sabato, mettersi come niente. di... ancora in fili, è là. Ah, sì, ancora di riposo. Sì, sì, all'altro mese. Ah, allora siamo bene. Finite già le ferie, è vero? Sì. Lei? Oh, io ne ho ancora le ferie. Ne ho, ne ho. Capito, capito. Ditemi, ho iniziato io, ho lavorato anche stamattina, ho lavorato ieri. ferie. Io lo so che ci voglio un po' di ferie. Ci vogliono sì le ferie, però quando te le danno, quando non te le danno bisogna aspettare il turno, purtroppo. Capito sorto. Capito, capito. Stamattina l'ho visto a Luigi Vulcano, abbiamo preso una cosetta assieme, poi doveva fare cosa e se n'è andato. Ho capito, capito, no, io l'ho visto ieri che stava entrando a lavorare, stavo salendo a Sassari. No, stavo salendo qua in zona. Ieri stavo salendo a Sassi, l'ho trovato uscendo dal deposito là, e stava rientrando a casa sua, e io stavo salendo a Sassari. Ho capito, ho capito. Siamo sentiti stamattina. E niente, mi ho preso un caffè. E poi sono andato via, tutto qua. Tu abiti vicino a Luigi. Tu non mi senti? Sì, sì. Ho detto allora tu abiti vicino a Luigi. Sì, sì, io abito vicino a Luigi. Capito, capito. Aspetta un secondo, sarò te lo prendo subito. Vito, là ci stiamo dopo. Yeah. Sono dovrei sempre essere diversa. È meglio avere la radio quella modificata dalla 48. Per il momento si è dimostrata la numero uno in assoluto. La numero uno in assoluto, la 48 modificato, è favoloso. No, stai arrivando bene Gianni, non ti preoccupare. 9-5, ripeto, radio 5, ti sto ascoltando col baracchino. E stai andando alla grande. Ma siamo interessati la radio, perché guarda, mi piaceva veramente, se sì, c'era un problema. Finalmente sono riuscito a sistemare, ora sono contento. Già sto parlando anche a voce bassa, e quindi per quello magari non mi riesce a sentire squillante. Già, senti, queste erano bene, non ti preoccupare. Io modulo sempre a motore spento, se sono acceso cambia sempre qualcosina, perché ho fatto i controlli con lo strumento, spento da un tipo di watt e acceso ne da un altro, capito? Ma non può tenere sempre la macchina accesa ore e ore, no? Ogni tanto l'accendo, così, ma tanto se arrivo bene così, arrivare a 9.10, a 9.20 cosa mi interessa, sta arrivando bene comunque. Comunque, però, vi prego solo una cosa. Siccome ho letto, ho sentito anche da qualche amico mio, questa banda di 45 metri, che sarebbe poi la pirata, io non è che me ne intenda molto, ma c'è tempo che c'era. Praticamente, alla fine, cosa ti serve? Perché cosa serve questa banda? Lo volevo chiedere, no? Serve a farti mettere le manette, non serve ad altro. Quello già ho capito, però alla fine, nel senso che ha, per parlare con chi? Anche con noi stessi, perché alla fine non è che entra in altre frequenze. È una frequenza solo per parlare, è pulito, così è. Già, non lo so, guarda. Sono cose che non ti rispondo perché non mi interessa. Io sono animatore, trasmetto le bande amatoriali, quelle lì sono bande pirati, a me non mi interessa. Capito? Non lo so. Scusa un attimo che stavo, ero troppo vicino alla radio. Capito Gianni? Non so che dirti. So che sono delle frequenze dove ci vanno i pirati e basta. Altro non ti posso dire. Proibitissimi dalla legge, però tutti ci parlano, quindi ognuno fa quello che le piace, si assume la propria responsabilità. Io di certo non ci vado. Preferisci la legge? No, niente di che, non che mi interessa, però sai, se era una cosa utile, perché non usarla? Alla fine, in teoria non si potrebbe neanche parlare con il microfono preamplificato, non si potrebbe usare neanche l'amplificatore, però ce l'abbiamo tutti, compreso te, quindi alla fine siamo quasi tutti quanti con i legge, usando l'amplificatore che dice, alla fine di estate non si potrebbe neanche usare, però non lo so, aspetta, il radioamatore può usare l'amplificatore? C'è una differenza tra me e te, io posso usare tutto. Qualsiasi tipo di microfono, qualsiasi tipo di amplificatore, sino a 500 watt. Lui se da 1000 non interessa. L'importante è che la potenza erogata sia 500 poi. Capito? Uno è avere la detenzione e l'uso. Uno è non avere né detenzione né l'uso, quindi, a parte il fatto che tu in 45 metri, com'è che ci vai? Devi avere una caffè per andare in 45 metri. Oppure un trasverter che non so se si trovano più. Quando ho iniziato a parlare io c'era mi trasverter, adesso non lo so. Comunque per andare in 45 metri devi avere la radio che c'ho io, la radio HF, la radio amatoriale, se no come ci vai in 45 metri, tu con la chi non ci vai. Io non ce l'ho e non mi interessa bene. Quindi mettiamo già con l'utilizzatore, però c'è gente che ce l'ha un baracchino, non ho capito come ha fatto la radio. No, è un baracchino Gianni, sicuramente sta usando un HF140 o capito, sicuramente stanno usando radio del genere, col baracchino non ci vai tu in 45 metri, fidati. praticamente sono i 7 MHz e non c'era nessun baracchino 7 MHz. Capito? Non confondiamo la lana con la setta. Non lo so, guarda, non ci voglio entrare nel discorso perché in effetti qualcuno potrebbe anche capire male, perché nelle radio non conviene mai parlare, ma non è che stiamo sto dicendo niente di chissà che cosa, sto solo informato e chiedendo, perché sento sempre parlare anche su internet di questa banda, tutti ne parlano, ma sotto fondo se ci parla vuol dire che c'è ancora gente che ci parla, però non ho capito solo il senso di parlare su questa banda, alla fine sarebbe più forte come potenza, come portata di segnale, alla fine è quello, se no il senso. Gianni, che aveva discorso, ti ho detto non mi interessa, ma ognuno fa quello che piace. Ci vuole l'antenna adatta per i 40 metri, uno. Ci vuole la radio adatta per parlare con la frequenza, due. E poi non mi interessa. Non ci parli né con la mantova, né con ci vuole di polvo, è fatta l'antenna apposta per quella frequenza, vogliamo fare tante cose. Capito? E comunque ti ripeto, a me dei 45 metri non mi interessa niente, io non ci sono mai andato, parlo 27 perché c'ho la concessione, radioamatore perché c'ho la licenza, nelle bande consentite dalla legge, altre cose a me non mi interessano, quindi cambia discorso. Anche io ho la concessione, non è che non l'ho fatta, vediamoci, perché io l'ho pagata, ho fatto specialmente dovevo fare. Giusto tanto per parlare che ne sa più, beh, cambiamo discorso, va bene, com'è il tempo di vento c'è? Abbastanza, no, perché sono cose che non mi interessano, già mi capito. Non odiavo io questa gente che va a rompere le scatole, le frequenze non consentite, quindi non mi interessa per quello che sto dicendo. Sono cose che non mi riguardano proprio. Ti ho spiegato che per parlare lì ci vuole la KF, col baracchino non ci arrivi. Ci vuole l'antenna adatta, punto e basta, altre risposte non te ne so dare, non lo so, capito. La gente l'ha pagata la concessione, io ne pago due, però. Io pago quella da radioamatore 72 euro all'anno, compresa la Tassari, e quella del baracchino 15 euro, cioè non ne vale neanche la pena pagarne, ne fate il prossimo anno non ne pago più, sfrutto la licenza amatoriale perché nella licenza amatoriale c'ho da 0 a 30 MHz, quindi posso tranquillamente anche usufruire degli 11 metri, nonostante usufruisco dei 10. Non ho nessun problema e non li pago più perché ho un furto allo Stato, visci? Anzi, un furto all'utente, più che allo Stato, e lo Stato ci guadagna. Se tu immagini, io pago 5 euro per quella amatoriale e devo pagare 15 per il baracchino, non ho capito perché. Tu perché c'è la amatoriale, ma chi non ce l'ha? Per quello gli prendo i soldi, capito? Perché comunque come avevamo questo discorso c'è sempre più gente nel baracchino. Io adesso nelle bande amatoriali non lo so se c'è tanto traffico. Io perlomeno, oltre a quell'amico di lì, del paese, io non ho sentito nessun altro in zona che sta delle bande amatoriali. Comunque ti volevo chiedere, ci stavamo parlando e stavi spiegando che queste parti, quelle frequenze che fai tu, si collegano ai ricettori e lì ci siamo arrivati, ma io non ho capito come fai ad avere difficoltà ad arrivare sui gramuti con questo, se si collega diretto al ripetitore, come fanno al ripetitore stesso? Quindi è proprio morta la zona che non riesce a coprire bene, perché non riesci in diretta e non riesci neanche con il ripetitore, così è. Ripetitore sì, in diretta è che ho difficoltà, lo sento lo stesso come sento a te, però non a fondo scala, capito? Lo sento a Carlo come sento a te adesso, più o meno 9, 9, 5, mentre invece con il ripetitore arriva a fondo scala, capito? Tutto lì la differenza, già. Poi lascia perdere le bande amatoriali con queste CB. Che si accende la KF ci sono 5.000 persone che stanno parlando, c'è tutto il mondo che parla di già. È un altro pianeta, non confonderla con la setta. È un altro pianeta, è completamente un altro pianeta, capito? Lì ci sono tutte le frequenze, sono a 40 metri, 20 metri, gli 80 metri, i 15 metri, tutte le bande FARC. Ma ci vuole un anno a spiegarti le cose, quindi non mi voglia. Capito? E in ogni banda ci sono 20, 30, 50 persone che parlano, quindi non è come qua, no? A canali, lì non c'è ne canali. Lì a frequenza, a sintonia continua, perciò c'è tutto il mondo che parla già. Quindi non puoi dire qui c'è più gente, lì c'è meno gente. E non me lo vedi più uno, il problema è isso. Ma no, vabbè, non è che voglio entrare nel particolare, non voglio neanche darti disturbi mentali a spiegarmi le cose, ma giusto tanto per sapere un pochettino, dai, che a me mi piace sempre imparare e saperne un po', perché in futuro magari se mi piace, oltre ancora sono giovane, se ho voglia magari me la prendo, se no già non è che abbia tutta questa grande necessità di avere, anche se mi sta un pochettino appassionato come storia, però per adesso mi seziono solo questo mondo del baracchino per il momento, perché ancora devo cavalcare con questo, se mi metto a trattarne altri non ci cavo niente, quindi parlo prima bene una cosa col tempo e poi vediamo. E sì, infatti, dai, in effetti se ci pensi a giorni c'è qualcuno, a giorni non c'è nessuno, ma come mai sei rientrato di nuovo nel mondo? Perché da quanto ho capito avevi staccato la moto a non parlare più col baracchino. Ti è piaciuto di nuovo sentire un po' di vecchi amici così, il baracchino? Ma non so che ti abbia informato di questo, ma io non ho mai staccato. Io ci sono sempre stato e ci sono sempre. Ci sono periodi dove modulo poco e periodi dove modulo molto. Adesso di nuovo sto modulando molto, magari fra un mese modulo poco perché c'ho poco tempo, perché ne c'ho poca voglia. Ma io non ho mai staccato. Non so chi ti abbia informato di questo, non mi risulta. E comunque ti auguro con tutto il cuore di riuscire a prenderti, ma sappi che non è una passeggiata, perché devi fare un esame, quindi devi studiare giorno e notte, ma studiare veramente per poter avere la ricetta di mattone. Non è che fai il versamento e te la mandano a casa, devi fare un esame di stato, dove sarai sottoposto ad un test scritto e devi rispondere a domande e a quiz inerenti all'elettronica, alle normative di legge e a tutto quello che sono le telecomunicazioni in generale. Quindi ti auguro tutto il cuore di riuscirci, ma negli esami precedenti 30 sono andati, 30 bocciati, negli ultimi 23 andati, 23 bocciati, quindi ti ripeto, te lo auguro con tutto il cuore di riuscirci. Grazie. Ma per caso queste domande non saranno vero o falso, no? O risposta aperta? Sono risposte che devi dare qui, siccome la patente della macchina, però anziché segnaletica motore è tutto elettronica. Quando l'ho data io non era qui nel 1993, ma era un compito scritto di 4 ore, come quando ti stai diplomando, la stessa cosa, capito? Uguale, preciso, identico. Non era facile neanche in quegli anni, ma non era neanche difficile, bastava solo studiare e avere la voglia di farle le cose, non di dirle solo io vado, io mi prendo, io dico, io faccio. Quelle sono persone che secondo me hanno solo la voglia di parlare e non di fare, perché io ho detto me la prendo, ho studiato, sono andato e me l'ho presa, primo esame promosso, quindi. E per studiare cosa c'è, qualche libro o si devi aggiornare sul computer? Cioè io andando per saperne un po', dove potrei informarmi, da dove mi dovrei iniziare a studiare? Libri di testo dell'elettronica ci sono in vendita, come quando tu compri un libro di algebra, un libro di italiano, un libro di storia, un libro di geografia, la stessa cosa. Lì ne compri uno solo, sono 500 pagine e devi studiare 500 pagine. Quando hai finito di studiare le passi queste persone che fanno così. Sì, fa, è bella all'inizio, lo senti che sta con te, che parla, però alla fine dici, passano tanti anni e ancora sei così. Fallo se lo devi fare, inutile che sei lì. Io, la verità, non ne sapevo niente, per quello faccio chiedere. Adesso figurati, sono vero o falso, se sono come le 30 domande come fanno nella patente, ui. Nelle patatine, le vicegete, lo fa la vita nelle patatine, per dire la patente, ma senza studiare, senza niente, lo sai come si chiama, scusate la parola, buccia di culo, così, senza studiare, senza niente, vero faccio così alla casaccio, non è possibile, nelle vite, nelle patatine proprio, veramente. Ma qua non c'è le patatine, qua c'è una commissione che gira per i banchi, ti ho detto che è un esame di Stato già, a parte entrare a non è un gioco, è un esame di Stato a tutti gli effetti, perché te lo rilascia il Ministero della Telecomunicazione, quindi tu per il Ministero devi essere preparato, capito? A prescindere dal fatto che io non ne possa sapere o non ne possa sapere, però se tu vedi sei sottoposto a uno stress mentale allucinante, perlomeno in questo che adesso l'esame, in quello dove l'ho preso io, dovevi studiare e basta. Il compito veniva scelto dalla commissione, prendevano una busta, la aprivano e dicevano quello che tu dovevi fare. Adesso non mi ricordo, sono passati tanti anni, qual era il compito che avevo fatto io, ma non era facile. Non era molto facile perché c'era, non so se conosci le equazioni, se di matematica sei bravo, ma c'era un'equazione per poter fare un calcolo di un allineamento di un alimentatore, adesso mi ricordo se è un alimentatore o un trasformatore di corrente, non mi ricordo, ma ti giuro che ho avuto molta difficoltà, parecchie, quindi io penso che non sia un gioco, poi ripeto, ribadisco che auguro a tutti di farcela perché non sono geloso di nessuno, anzi benvengano gli animatori in più, però purtroppo non è facile, non è assolutamente facile. Guarda, ti dico solo che l'ultimo esame che hanno fatto hanno bocciato un ingegnere elettronico, quindi lui che è l'esempio per tutti perché ha studiato proprio elettronica, ma l'hanno crepato lo stesso. Vuol dire che sono veramente duri e rigidi, sicuramente stanno proprio facendo queste leggi apposta, lo stanno complicando perché sicuramente forse c'era o troppa libertà o era troppo facilini, non lo so, perché in effetti se li stanno fermando così, non so, secondo me vedrai che tra qualche anno vedrai che metteranno anche qualche domanda, qualche quiz di per il baracchino, secondo me lo faranno perché c'è troppa libertà in questo mondo del baracchino, in effetti si gira che ti rigira, c'è molta attrezzatura, c'è molta roba comunque, se uno vuole criticare anche su questo mondo del baracchino, c'è molta libertà, molta, basta che paghi e tu puoi trasmettere, io secondo me tra qualche anno vedrai che qualche domandina la devi fare a questo. Perché secondo me c'è troppa gente che è contrato, fa pagato, fa tutto, o gente che non è paga, perché sicuramente ci sarà qualcuno che non è paga. Io da poco ho sentito gente e gli ho detto, ascolta, come è stato a pagare per... Io non so come si fa, però te l'ho chiesto così. E io, qua, non è pago io, e cos'è? Come fatto se non è... Io una piccola che non è paga. Ah, buono. Allora non dirla a nessuno perché se ti scopre qualcuno può fare la spia, ma a me non mi interessa, però se c'è la polizia postale, roba del genere, se ti sente, non lo so se si dà accesso dopo, io penso che siano 1.000 euro, minimo, se questo pure c'è. La carriera c'è già, almeno 1.000 euro. Dunque ti ripeto, io non ho di questi problemi. Io le radio che ho le posso tenere tutte, le posso usare tutte, quelle che sono qua, poi come vedi il 27 uso il baracchino, come fate tutti, con il mio microfono a tavolo, perciò non ho problemi, tutto quello che c'è qua è di mio uso e detenzione, poi cioè, ci stanno ancora a parlare alla radio. Perché altrimenti non puoi rispondere, non puoi fare, invece di qua sono, puoi dialogare diversamente, capito? Tutto qua, comunque, va bene così. Io mi sono sempre divertito con la radio e sono sempre uscito bene, sempre, e sottolineo sempre. Poche volte mi è sentito a me dare controlli, perché non ho bisogno di farmi controllare, nessuno mi controlla da solo io. Claudio, l'ho notato, dai. L'ultimo ispizio c'è stato del Piellino, là, però vedi lì che non veniva a fare il controllino, là, però già l'hai notato subito, perché quando ne sai te ne accorgi subito, però vedi, molte volte essendo abituato a uscire a un determinato maniera, oppure abituato che arrivavano a un certo segnale e poi arrivano più tardi, dice, ma come mai tutti i giorni così? Alla fine uno si mette anche in dubbio, e infatti c'è stato sempre quel piccolo imprevisto, ma fortunatamente sei riuscito a saldarlo, anche se c'è vento. No, ho chiamato uno, me lo sono fatto saldare, però vai Gianni, ho fatto tutti i 5 minuti, a non temo né vento, né altezza, né nulla, mi sono accorto che l'amplificatore mi aveva bruciato, spaccato il piede, sono salito su e l'ho sostituito immediatamente, ed è tornato tutta la normalità, non c'è un problema. Avanti Luigi Volcano, buonasera. Oh, buonasera Claudio, buonasera a Gianni. Ma anche io volevo dire la mia, se me lo permettete, dai, tanto ci avete l'argomento, volevo dire anche io la mia. La. Certo, la parola è aperta a tutti, quando c'è un argomento che si inizia, ognuno può intervenire per ribadire sempre qualcosa. Vai Gigi. È positivo, no, questo era volevo dire a Gianni di Chiaramonti. Per essere un radioamatore, bisogna che abbia uno anche una grande, ma grande passione, perché parlare con le radio, diciamo, è tutto un altro tipo di modulazione, si parla tutto diversamente da come stiamo parlando noi adesso. Lì bisogna conoscere tutti e avere un tipo di modulazione, come non so come spiegarlo, per parlare con loro, questi che sono radioamatori, che parlano in quelle frequenze lì. Diciamo una cosa, a me personalmente un po' non mi attira molto quel tipo di modo che si, nelle maniere che parlano loro. Mi affida più questo modo di parlare con i baracchini, non l'ho mai frequentato, ma qualche volta l'ho ascoltato, o mi è capitato di ascoltare, non mi affida più di tanto a me personalmente, capito, di andare su quelle frequenze lì, anche avendo, pregiandomi questa patente di radioamatore. Ci vuole proprio bisogna che ci abbia una passione, ma veramente dentro questa passione, deve avere proprio dentro questa passione, perché se no, a me, dico sinceramente la verità, mi piace più a parlare così con i baracchini liberamente, che posso avere un linguaggio molto diverso, più libero. Invece là no, devi ritenere un tipo di linguaggio, di modo di parlare. Giusto Claudio, ti sto dicendo giusto, non mi sono spiegato bene forse. No, ti sei spiegato benissimo, è importante che abbia capito Gianni. Riprendi. E Gianni, hai capito qualcosa? Se no te lo spiega più semplicemente Claudio. Sì, ho capito. Stavo pensando quello, ma non mi riusciva, dai, c'ero sulla punta della lingua. Se bisogna farsi di non avere determinato linguaggio, sì, in effetti hai ragione. Bisogna averlo in atto, dai. O ti piace, o se no, tanto per averla, per dire poi in giro, io sono patente dell'animatore e chi non se ne frega, per dire. O ce l'hai perché sei alla passione, ma se no non lo fai e ti viene il baracchino. Io per esempio, guarda, non l'ho mai, non sapevo neanche che cosa fosse il baracchino. Io ho iniziato che ero nell'associazione. di protezione civile, e poi dopo che serate ho detto chissà come è bello che sarebbe stato, ma sono, si possono tenere anche dai privati tra di noi, e lui iniziato piano piano, più piccoli barattini, proprio vecchi, latemie, costruite, poi col tempo sono riuscito un pochettino a... Aspetta, rispondo al telefono lui. Cos'erano le campionarie, che cos'era, come si saltava il DL, da lì ho iniziato io, ma non ti pensare che ho iniziato 10 anni fa, ho iniziato massimo, guarda, contando massimo 2 anni, esagerando, quindi ma sono 2 anni che sto cominciando, magari più avanti, piano piano, saprò fare, capirò subito che se c'è qualche cosa, so già che è quello, perché sono già capace di spiegare e di fare qualcosina. Io sono 2 anni che ho iniziato in questo modo del baracchino, e devo dire la verità, all'inizio non mi è piaciuto così tanto, perché non mi dava queste grandi soddisfazioni, anche perché ero un ingenuotto che non sapevo fare, però adesso che sono cominciato a sapere dove mettere le mani, che sono cominciato a farmi sentire abbastanza lontano, ne sono veramente contento, e sono soddisfatto, e sono più che contento, da tutto qui. È positivo Gianni, quello sono pienamente d'accordo, no, 2 anni sono pochi già. E ti dico una cosa, forse ce ne vogliono 10 e più di 10 pure di anni. Dico la verità, per diventare, per fare il radioamatore, per avere poi, ci vogliono anni di... E facendo un po' di esperienza ti viene anche più semplice prendere la patente, però non puoi avere in 2 anni, no, assolutamente no, già. No, prima devi iniziare a imparare bene coi baracchini, capito? E poi se veramente la passione c'è, allora uno sente e si prende la patente, ma diciamo che è un linguaggio che bisogna avere molta passione, ti dico molta, capito? Perché ti devi ritenere a quel tipo di linguaggio, non puoi fare cose fuori da quelle norme lì, capito? Non è che tu c'hai la patente e puoi fare tutto quello che vuoi, no, ti devi ritenere anche lì, ci sono delle regole, belle precise, capito? Nel modo di entrare, di un modo di chiedere di poter parlare in radio, un tipo di linguaggio tutto diverso dai baracchini, invece i baracchini è aperto a tutti, perché è aperto a tutti? Perché permettono di parlare, entrare, se non fai preco e senza preco, così, e man mano ti fai fare esperienza, ma con radioamatore queste cose non le puoi fare, capito? Assolutamente non le puoi fare, capito? Poi devono essere anche gente, attenzione, che il radioamatore deve essere la pollina penale, deve essere per la pulita, ma mi pare anche sul baracchino, non esisto, chi ce l'ha sul baracchino è perché non paga la licenza, però anche sul baracchino ci vuole, e sul radioamatore non sfuggi, sul radioamatore deve avere la pulina penale bella pulita, capito? Già. Sì, può anche essere, guarda, io non dico molto il capo di lui, però allora, per esempio, allora, partendo, io ho il porto d'arma, che me l'ho preso, ho fatto l'esame, ho studiato, e sono contento, il giorno che ho fatto l'esame alla commissione lì, via Monte, dietro a Liputi, sono stato, perché la sera l'hanno cambiata, sono stato, guarda, più contento, più felice di questo mondo, perché stavano facendo una strage, io ero l'ultimo e ho fatto l'esame e l'ho preso ed ero super contento. Me l'ho voluto fare perché a me piacciono le armi e quindi ho detto, ma se in futuro mi capita, adesso che sono giovane e voglio studiare, me lo prendo adesso, se no poi a 40 anni, e poi e dai figli, famiglia, e stai a lavorare, poi ce la fai. E allora me l'ho presa adesso. Poi sono, allora, un agente di PS, quindi sono super mega pulito. Poi per il resto non sono altro. Ho capito, sei un agente di? Agente di PS, pubblica sicurezza. Ho capito. E sarebbe un vigilante, questo da sì. Rilasciata dalla... Aspetta, l'ho presa un paio di anni fa, rilasciata dalla questura, mi sembra, per detenere le armi, vigilante, una cosa del genere. Sì, ma tu lo fai di mestiere o non lo fai di mestiere quel lavoro lì? No, non ci sono più, però mi è rimasta la qualifica. Ho capito, ho capito. Ti è rimasta la... ma che cos'è di vigilante? Di quale gruppo eri? Sei mai lavorato sul vigilante? Sì, ho lavorato. Allora, aspetta che prendo, aspetta. Scusi per capire dove hai lavorato. Praticamente chiamiamola licenza, siccome io ero moltissimo appassionato al gruppo non ho capito niente. Vigilanti che stessi giù che fanno controlli a città e scappano, è una cosa più stupida, pensiamo che... Allora, praticamente sempre c'è agente di pubblica sicurezza barracellare, che praticamente ti rilasciano la patente, diciamo, il tesserino, l'agente di PS, e se non sei pulito non ti rilasciano. Ma eri nei barracelli o insomma ho capito, sei un vigilante che vigili che fanno lì servizio, non so, all'Iniche, alle banche, ai supermercati, non ho capito, o un barracello, che cosa? Non ho capito. Barracello, Repubblica Italiana, Regione Autonoma della Sardegna, Compagnia Barracellare, agente di pubblica sicurezza, l'ho presa qua la mia vecchia patentino là, e ce l'ho ancora, e mi fa ancora, capito? Perché io con questo posso già entrare a fare tipo quello Sardegna Security e roba del genere, perché sono già idoneo. E per quello che, parlando del discorso, che ero pulito lì, in quel senso. Ah, ho capito. Ha giocato, adesso ho capito, dai, adesso ci siamo. E basta, so che ci sono i baracchini, perché non è qui, è bello, io se potevo ci sarei andato correndo. Sì, ma tu quanti anni hai già? Sì, già ho capito che sei un po' grande, però pensavo che ti piacesse queste cose così, controllare, fare servizi al vicino, fare... No, sto chiedendo, non è che ti sto... No. No, quello di quei servizi non mi sono mai piaciuti, no, io ripeto, io ho fatto solamente 3 mesi di... ho fatto solo la scuola dei carabinieri e basta, ho fatto la scuola dei carabinieri e basta, capito? Poi mi avevano chiamato nei vigili del fuoco perché avevo fatto il concorso delle campanelle, ma già ero già sposato, mi avevano chiamato per i 3 mesi. E non ci sono andato, già facevo già l'autista. No, io ho già una certa età e non mi interessa, non mi è mai interessato fare quelle, neanche vigilante, lo potevo fare, non mi è interessato farlo per fatto questione di soldi, capito? Che l'ha pagato poco e non l'ho fatto, neanche guardia giurata, come lo vuoi chiamare tu, non mi interessava farlo, capito? E niente, tu mi hai detto sì, perché non provi, e provo, io ho una certa età, non devo provare più niente, io aspetto questi 3 anni per andarmene in pensione e poi me ne vado in pensione dove sono. Ma ho capito, dai, va bene, in effetti parlando il baracchino sembra che siamo tutti gira, siamo tutte persone grandi, in effetti quasi sono il più giovane che sto parlando io, e quelli che ho sentito non c'è uno che ci abbia 20-25 anni, ma quello che ho capito poi non lo so, di quelli che ho sentito mi è sembrato di capire che sono quasi tutti dai 30 in su, se non 40, comunque. Ma tu sei sotto dei 30 perché? Sì. Io ho figli oltre i 30 anni, lo sai. Io ho figli che hanno più di 30 anni, Pierpaolo ha 32 anni, 33 anni deve fare Pierpaolo. Per dirti. Dipende sempre che età hai, se hai 60 anni puoi anche capire. No, io ti ho detto che c'è un figlio che ha 32 anni per fare 33 anni. Ti ho già detto tutto. Ti ho capito già. di Alfa Phi. E gemelli ne hanno 28, i gemelli, gli più piccoli. Ma già ti ho visto su Facebook, non mi sembra neanche una persona così tanto grande, per quello anche le prime volte che sei giù capisci la mia voce, in questo già 30 anni almeno, sai che sei una persona abbastanza matura, dai, grande, e vabbè, cosa li fa? Già siamo tutti quanti e si su Marte, cosa li fa? Se no te ne davo 40, sentendo così a voce, 40 te ne davo, non di più, Ho messo 51, andiamo bene. Io ho una figlia di 25, la fa 26 lo stesso, quindi non c'è problema. Andiamo bene. Non ho telefono, non fratello mi ha chiamato. Se scendevo, no, non gli andavo lui. A casa voglio stare seduto, riposato e assolutamente in giro a passeggiare, negare a passeggiare. Non guardo quanto sto passeggiando tutta la settimana. Lui. E niente. Invece tutto bene lui stamattina, sì, ce l'hai fatta andare là. Sì, Claudio, guarda, come sono entrato li avevo tutti vincolando nella chiesa, lì a San Giovanni sotto per passeggiare in vela. Stava lì, sono andato, e 94 anni, Claudio, cosa vuoi di più? E dopo lo prendi, che il Signore si era lasciata tranquillamente, 94 anni, cosa vuoi praticamente? Magari ci arriva solo tutti a 94 anni. Sarebbe un tamalotto per tutti, ma a volte proprio lui dice basta. Sento qualcuno che ha parlato sopra già, non so se qualcuno vuole entrare. C'è qualcuno che vuole entrare, su che mi dici? Tu hai sentito lui o solo io l'ho sentito? No, non ci ho fatto caso, non mi è sembrato. Non ci ho fatto caso io. No. No, non ho sentito nessuno. No, comunque va bene, avevamo il discorso con Gianni e tutto chiarito. Però già, mi hai detto 24 metri tu di cavo, giusto? Ma se sono 22 è meglio di 24, lo sai. Se non mi ricordo se erano 22 e 70, perché mi sembra che si dovesse fare 300.000 diviso la frequenza del centrobanda, no? Del canale 20, e adesso non me la ricordo che cos'era, se era 27.115, non me la ricordo. Quindi dividere quella frequenza ti dà il metro giusto, e mi sembra che sia 11.38, tu non... Poi 11.38, 11.38, rispondi e dicemi il metro giusto, capito? Perché ti ho detto 24 al massimo, perché sono massimi, minimo almeno 22, minimo, ma massimo 24. Sì, la buona anima di Giancarlo diceva, no, perché tutti dicevano sono 11 metri, poi fai altri 11, sono 22. La buona anima di Giancarlo ha detto, tu fai una cosa, dall'antenna, metti il cavo che ti serve arrivare al baracchino e poi già va bene. Diceva così la buona anima di Giancarlo, pure non so se è vero. Anche io non ne ho mai fatto di queste misure, le misure si fanno solo in autocostruzione, quando ti serve una calata. Io ne ho 55 metri in cavo e quindi non sono stato lì a fare nessuna misurazione. Ho preso una tessera al centro, quando è arrivata giù ho portato, misurato le radio, ecco, tu arrivi, taglia l'HPL. Non ne ho mai avuto problemi, sono tutte stronzate, ho detto proprio la cosa giusta a lui. Ascolta che tu già, una cosa, adesso io su a casa, no? Ho messo lo spezzone da 90, ho messo il commutatore d'antenna, dall'antenna, il commutatore dell'antenna, lo spezzone gliel'ho messo non da 45, perché da 45 la volta è troppo corto, l'ho fatto da 90. Beh, da 90, cavo normale, e mi dava leggermente di stazionare se attaccavo la segretaria, ma la tariffa quasi alle 1.05, mi ha dato troppo. Allora ho provato uno spezzone che c'avevo giù, che adoperavo in garage, che avevo messo allora ho messo dal commutatore dell'antenna uno spezzone di quel cavo grosso, taxi, quello grosso, che da un metro e venti più lungo è. Oh, con quello grosso e più lungo, precedente l'anno fa, con quello non c'è stazionare, qualcosa sta a casa, te lo immagini? Con quel capo grosso più lungo, però soprattutto se è un metro e venti è più lungo, dai, con che pro è più lungo? Ah, e ci ha passato le stazionari, così? Ho cambiato lo spessore, gliel'ho messo più da forse da un metro e venti, dai, aggiunto altre 45, capito, ma ce l'avevo già fatte da tanto di qui, che dovevi gli spessoni, e gli ho messo quello da 90, non cambiava nulla, quello più lungo, io non so da quanto sia, che è il doppio, con quello grosso, non ci sono stazioni, addirittura i canali normali non si muove manco l'ago. Oh, ma allora scusami un attimo, perché queste cose sono anche scritte dai, vabbè, vicini, però se entri nei siti di internet, proprio delle radio, dei CD, c'è scritto di seguire questo sistema anche per i metri delle stazioni, di seguire 45, però adesso parlano tra di loro, chi dice no, ma vai, stazioni puoi mettere quanto ne vuoi, anche lunghezza che vuoi. Il capo che scende quanto vuoi, allora scusa, perché esistono queste misure? Se non servivano non ne avrebbero neanche parlato. Giusto Gianni, no, ma io queste suone da tempo l'ho sempre fatta anche prima in garage. Diretto c'avevo un po' di stazionarie, diretto dall'antenna al commutatore d'antenna per i baracchini, c'avevo stazionarie, se lo mettevo diretto c'era un po' di stazionarie. Invece mettendo quest'altro spezzone più lungo mi cambiava tutto, mi toglieva le stazionarie, se lo mettevo più corto, per esempio da 45 c'avevo stazionarie, se lo mettevo da 90 c'avevo appena di meno le stazionarie, più lungo ce l'avevo ancora, andava a eliminare. E io c'ero di tutte le mie studi, allora cosa faccio io qua? Faccio le prove, io mi metto una cama, ho provato quello corto da 45 e c'avevo un po' di stazionarie, quello da 90 ne poteva andare, quello che è più lungo ancora, ancora meglio, toglieva completamente le stazionarie. Completo. Vedi, quello sì, quello con le ispezioni a volte cambia, ma non sempre, attenzione, questo me lo fa a casa, io ho provato in camion ho provato da 45, da 90, da 2 metri, da non cambia, sempre uguale sono le stazionarie, dipende, forse l'antenna sul tetto è diversa da quella di metterle in vettura in camion, è una cosa diversa, perché gli ispezioni non mi cambiano niente, capito? Sono tutti uguali. Invece a casa cambia anche di parecchio, visto, da un pezzo all'altro di lunghezza. A casa però, Sì, questo ti do pienamente ragione. Infatti io per la macchina, se io non seguivo queste regole, col cavolo che arrivavo a questa portata di segnale e con questo livello di radio. Perché io ho seguito da 24 metri, metri e 3 metri e 50, ho detto, ma uno dice così, uno dice così, facciamo una cosa, blocca tutto, mi sono informato, ho letto su internet, ma ho letto bene, e quando ho guardato su 10 risposte, 9 tutte uguali, di quelle proprio serie, così è, allora mi sono messo, l'ho preso i millesimi precisi. Il campo da 45 è precisissimo, infatti sto scendo bene per quel motivo. Prima invece era tutta la mettilo da 90, mettilo da. Infatti uscivo malissimo, ma male, con una portata di anche di 100 watt, non arrivavo così. E cioè adesso con pochi watt riesco ad arrivare bene, e sono contento perché ho seguito le regole. Invece a casa non ho seguito le regole, ho fatto come per l'Italia, e infatti sono gli effetti per dove sono e per la prestatura che avevo, dovevo arrivare qualcosina di più, in effetti anche tra paese, lì perché sono uscito e mi sono fatto i controlli e non arrivavo neanche così tanto alto, è fondo scala, infatti adesso però la prestatura me l'ho tutta sistemata, mi manca questo benedetto cavo che sono una settimana vicino, vabbè che erano chiusi. Quando è stato lo piatto è stato alla grande, tanto ho preso anche già un tubo per isolarlo perché da noi non è abbastanza nero, quando piace spacca tutto e quando c'è caldo scioglie tutto, quindi mi metto un bel tubo di plastica dentro, comunque lo faccio bene la borra, isolo bene il filo così anche dalle tenture e tutto. Positivo, no, ma se metti il capo grosso va bene, Se tu metti quello grosso va bene, già, va più che bene, non canalare dentro nessun tubo, tu metti quello grosso e già va bene, già. Prendi quello che ti ho detto io, perché costa, quello il 213 costa perché me lo ricordo, ho comprato io, adesso io non mi ricordo quanti anni fa abbiamo messo l'antenna con Claudio, abbiamo montato l'antenna e l'avevo comprato io dalla CBC. E mi aveva lasciato proprio 100 euro, proprio arrotondato, perché faceva più di 100 euro, però io mi ricordo di averne comprato una trentina di metri, adesso non mi ricordo di preciso, una trentina di metri l'avevo comprato io per scendere dal tetto al garage, avevo preso una trentina di metri, l'avevo comprato. E mi ha fatto roba di 100 euro, certo, mi aveva fatto tutta arrotondata a 100 euro, me lo ricordo ancora. Esagerato, porca miseria, certamente comunque se te l'ha fatti pagare 100 euro non sono 2,50 euro. E io che stavo, non dico che mi stavo lamentando, ma che mi stavo preoccupando perché l'avevo pagato 15-30 centesimi. E allora già non sono niente, 1,50 euro ce l'ho pago, dai. 1,50 euro non è molto al metro, tanto me ne servono 23, dai, 23 metri. Se spendo 20 euro, 22 euro va bene. No. Non so, non fate caso, lo so meglio quando cosa. Io mi ricordo che ho speso 100 euro per quel cavo lì. E non mi ricordo se ne ho preso 30, forse 40 metri, ma non penso che ne sia 40 metri, Non me lo ricordo, non penso che fossero 40 metri, assolutamente. Però costa quel cavo lì. Forse Claudio saprà quanto costa quel cavo lì a metro. Costa intorno ai 4 euro al metro. 4 euro al metro? Mi inteso, vai, canto così. E se lo ordini dalla Germania lo trovi a un euro. Germania? Ma è urgente, io l'ho comprato lì e mi ricordo che avevo speso sui 100 euro. Forse 100 euro. Allora ci sono presi in più che è una trentina di... No, a 4 euro a metro, 30 metri che hanno fatto. Quello 40 metri sono 100 euro, sono giusto. Ma adesso costa 3,50 e 4,50, ce ne sono due modelli, però lo prendi il 213, lo trovi anche su eBay intorno a 15 euro di viaggio, l'ho ordinato l'altro giorno e sono circa 1 euro al metro. Euro al metro, ho capito. Ah, infatti io l'ho comprato la CBC, però mi ricordo che a 100, cioè mi avevano rotondato, faceva qualcosa in più di 100 euro, mi avevano rotondato a 100 euro. Infatti non mi ricordo quanti metri erano, se erano 40, 30, adesso non me lo ricordo. E mi avevano rotondato a 100 euro, vuol dire che spende, infatti 40 metri fanno 100 euro, 40 metri a... No, io mi ricordo 30 metri, 33 metri, una cosa del genere. E a 4,50 fase intorno nel conto, arriva a 30, a 400 euro, giusto? E tu ne hai preso 30 metri, quello da 3,70 euro, qualcosa del genere, fatto il conto, è più o meno superi 100 euro ed arrotondato. Ma il prezzo è quello del cavo, magari io l'ho trovato così, forse ancora ce n'è perché magari qualcuno c'ha qualche stop, qualche fallimento, che ne so, comunque io mi ho fatto arrivare 40 metri e è venuto qualcosa del genere, più in più mi hanno messo anche due PL omaggio dentro metro. Positivo. No, infatti se lui già ne va a prendere la CBC, sai già quanto costa il metro, Quello è il prezzo. Non si può comprare. Vedremo, dai, intanto c'è Busaro, ce ne sono altri che prendono questi cazzo di a 50 euro, 213, costa poco, si fa un giro e si chiede, il prezzo migliore si compra. Positivo, siccome poi io me l'aveva dato un altro mio nipote, io non lo scendo da sopra il tetto perché non mi arriva, capito? Mi mancano 2-3 metri o se no di più, e non lo scendo da sopra il tetto, quello che va in garage da me. E per quello ti ho detto, vuole misurato, io ce l'ho già mollato, pronto a toglierlo, lo devo misurare, può darsi che lì ci siano 22 metri, 23 metri, quello che avevo comprato io, proprio quello che avevo comprato da CBC. Io lì l'ho tagliato un po' e l'ho fatto entrare dentro casa, e mi è rimasto un sospettore da sopra il tetto a andare in garage, capito, di quello che avevo comprato da CBC, di quello lì. E infatti ho detto, siccome io poi me l'ho fatto un altro nuovo, e quello devo scendere, sopra il tetto, già mollato e tutto, devo scendere, e non so se ci sono 23, quello che ho detto ieri, forse che ci siano 22 metri, non l'ho misurato, però forse che ci siano 22-23 metri in quel capo, capito? Positivo, positivo, là. Ho detto, se ci sono, c'è 2 metri, te l'avrei dato io, giustamente non è 3 metri, se lo posso pagare a 3,70 euro quanto che l'ho pagato io, però l'avevamo messo con Claudio quello lì, però devo scendere perché ho staccato io vicino dall'antenna e scende, io vicino ci ho entrato dentro casa, hai capito? E siccome l'ho tagliato più in giù, e adesso lo volevo fare con attaccarlo al conto, però non mi ci arriva, hai capito? Mi ci manca un paio di metri, non mi ci arriva, e allora l'ho dovuto fare un altro nuovo, capito? L'ho dovuto fare un altro nuovo, e quello lo devo scendere da sopra il tetto e lo metto da una parte, capito? Se c'è, infatti per questo momento è da misurare, la scena è misurare, se ci sono 22-23 metri, quello che serve a te te l'avrei anche dato. Bene, oh, grazie dai per l'interessamento, però dai, vediamo un po' di cavarmi i piedi questa settimana, e se proprio non c'è, che costa 4 euro, che costa anche 5, non lo prendo e lascio l'RG58, ma non fa niente, non è che devo spendere 100 euro per un capo, in effetti se ci pensi dici, ma cosa ci siamo che spendi 100 euro per il capo? No, assolutamente, non esiste, guarda, io ho pagato 40 metri di capo 10 euro, 10-12 euro, l'RG58 fa più che bene, se trovo l'RG213 che ho pagato, te lo pago 20 euro, anche se sono la metà dei metri, fatto, ma non di più, cioè non più di 30 euro, perché spendi 50 euro non ci spendo, lascio l'RG58 e compro altri 22 metri, spendo 6 euro. Posso dire una cosa, ho pagato 100 euro l'antenna, ho sentito un intero, se pare, non me lo ricordo, l'antenna, e quanto ho pagato l'antenna ho pagato il capo, capito? Te lo ricordi quanti metri erano il capo da su dal tetto mio a giù al garage? C'erano 40 metri, quanto il capo di metri era, te lo ricordi tu? 35 metri era con l'antenna posizionata così come. 35 erano, cla. Via, 35, poi ne avevi lasciato un pochino in più arrotolato, mi ricordo, no, 40 metri. Perché allora era 40 metri il capo, giusto? Era 40 metri il capo. Sì, 40 metri, ne avevi 5 arrotolati, che ti servivano sia che facevi qualche spostamento, però il capo 40 metri avevamo preso. Ed era 100 euro, fa un giro di conti, costava qualcosa in più, ma allora è venuto ancora di meno a metro, è venuto ancora di meno, perché 100 euro costava leggermente di più, ma aveva fatto appena di sconto, e mi aveva fatto 100 euro tondito della CPC, me lo ricordo ancora quando l'ho preso, questi 40 metri, ed è a 4 euro, e no. Poi ma niente, mi sono, se fa 100 euro, 4 euro a metro, e no. Ehi, ti avevo fatto 3,50 euro a te, ma è 4 euro al metro. Tu immaginati che io per una matassa da 100 metri, per 100 metri ho speso 250 euro. Da 100 metri, 250 euro, fatti un gotto. Però io uso la Camille, si chiamava H100, prima si chiama Camille. Ecco, H100 si chiama adesso, però che non mi ricordo. Comunque tipo quello che c'è tu, però è leggermente più grosso, rimane all'interno, mantiene più potenza, e basta. Sono quelli che usano i radioattori praticamente. Un bel corto al capo, un bel, anche nel G58 aumentato, io ne ho preso 50 metri per fare una calata un di polo piccolino dei 6 metri, che va bene quello lì, per fare quel di polo piccolino, perché è molto piccolo il polo di 6 metri, e quindi automaticamente il capo grosso metto quello fine, a 50 euro, 50 metri di capo. neanche il perché, mi sono dimenticato e l'altro giorno qua me l'ha spaccato in due, me l'ha aperto come il melograno, ho attaccato l'amplificatore quello grosso che lo volevo provare per vedere se era tutto a posto, perfetto, mi ha dato tutta la potenza. Dopo un paio di giorni ho iniziato a vedere il segnale che calava, ho detto ma questo si vede negli occhi. Ho controllato prima i PL, qualche PL, sono tanti collegati di PL, i due commutatori, guardo qua, tutto a posto. Sono salito su, ma qua non si sia staccato il PL, non salgo, ma di solito non l'ho mai fatto perché io il PL lo stringo a mano, sì, ma lo stringo bene nella sua sede. Sono andato a toccare il PL e mi è rimasto in mano, spaccato in due. In antenna mi ha spaccato il PL, proprio l'ha aperto, e quindi toccava e non toccava. E ieri sera stesso, anche se c'era maestrale, sono portato sull'attrezzatura, ho tagliato il serratore a gas, l'ho rifatto nuovo e mi sono accorto che erano di quei PL comprati a 50 centesimi. E non ricordo neanche perché avevo messo quello, se era un cavo che stavo provando, poi mi sono dimenticato di sostituirlo. Adesso gli ho messo quello in porcellana dell'anfano e quello tiene 3 kW, non ci sono problemi. Quindi occhio anche ai PL, non solo ai cavi, ma occhio anche ai PL, perché se uno usa potenze bisogna avere anche i PL buoni, altrimenti te li spacca in due. Quello sì, però non so se mi hai sentito la cosa che ho detto poco fa. La gomma addirittura ne ho 22 metri, infatti a misura 22 metri arrotolati dentro una busta nuova, le avevo fatte per un amico e poi non le ha voluti. No, a me non serve fare, non serve perché ne ho, di quel cavo ne ho, e ti dico una cosa, mi ha dato tutta la carata anche il Salvatore Maestrale, mi ha dato tutta la carata di quel cavo lì, non so quanti metri, ma me l'ha data anche Salvatore un po', Salvatore Maestrale, e c'ho anche quello lì, c'ho anche quello lì. Però sì, hanno regalato una ventina di metri, se non di più, a Spiri Gonzale, quello di Fattada, perché è passato una sera una cosa e doveva andare a cercare a comprare, gli ho dato una ventina di metri io, che ce l'avevo già di quel capo lì. No, ne ho parecchio io, ne ho voglia di quel capo. A me personalmente non serve, infatti ne ho in più, a dire la verità, ne ho in più, capito, ne ho in più, però no, a me non me ne serve altro di quello, però diciamo non è a paragone all'RG di 58, no, assolutamente, perché io l'ho provato e si è tutto quanto squagliato al caldo, si è tutto pesato, col movimento del vento lo muoveva, lo faceva, dove l'hai appoggiato e l'hai legato per non muovere dal vento, sopra il tetto, si è rotto, quello invece quello 213, no, è quello è robusto e poi c'è quel filo dentro, sono tre attorcigliati, sono tre fili in rame attorcigliati, infatti il conto è qua, è grosso pure, e quando ormai si spezza quello lì. Per me no. Viva il fischio, basta. Sì, vocra. Ciao. è stato molto chiaro Gigi Fontano e anche Claudio. Poi per il resto è tutto a posto, là, non so cosa dire. Comunque buonasera Grotte. Buonasera anche a te, ma questa stazione quando è che la mettiamo in uso, in opera? Cos'è, ti mancava solamente il cavo hai detto? Cavo e tu, tutto il resto è tutto a posto, solo questo benedetto cavo. Ma io ve la festeggiamo, facciamo questa benedetta calata e ci festeggiamo. Non vedo l'ora perché ho piazzato la penna e la voglio provare. Perché l'ho messa veramente in alto questa volta, c'è un tubo grosso che sempre c'è prima. Quello è il mio palo. No, veramente, bella alta, bella matura, bella madura, piazzata bene, barattino buono, tutto a posto. Ma questo capo, io ce l'ho il capo, l'RG200, l'RG58, però siccome ho detto, ma siccome c'è tutta quella perdita e sparita da 100 me ne passa a 50 e stazionare da 1,2 che sono in laboratorio, più sono 1,4, 1,6, molte volte 1,9 anche in altri canali, ho detto ma non è possibile, non è possibile. Allora risolvo tutto, prendo quel capo e sperando che abbia meno perdita, poi per il resto va bene. Perdonami, non voglio giocare al rimpallo, ma tu hai mai provato a controllarti il cavo col tester? Guarda, ho tutto fatto, tutto controllato ed erano tutti a posto, tutti, perché ho tre cavi di RG58, cioè quello grigio, quello colorato e quello double switch, non te lo so leggere, però lo dico così. E tutti e tre davano lo stesso risultato, tutti e tre. Quindi non è questione di calatura, perché erano fatti come si può dire, le chiusure non sono di quelli normali, di quelli, ma che si possano, quando gli iscritti si vedono se è andato bene, se la massa non è collegata al positivo, cioè di quelli lì, quelli grossi. E va tutto bene, pensavo proprio che non rende proprio, c'è sicuramente così tanta perdita, che magari fa contatto effetto tra della televisione e tutti i pari che ci sono attorno, magari fa quello, per quel motivo che perde così tanto. Perdona, ma come facevi tu a sapere che partivi, sì, sapevi da cos'era la partenza, ma l'arrivo come facevi a saperlo? Non ho capito, Sì, tu mi hai detto che avevi una perdita lungo il cavo, a questo punto sapevi che stavi partendo con 100, ad esempio, 100 watt, e come facevi poi a sapere che su arrivavano solamente 50? Me ne sono accorto quando modulavo quella parte di Sassari, ho detto, ma mi sembra strano che ne so, Gigi mi senta 7, Claudio mi senta 6-7, CQRM non mi sente più, ma mi sembra strano, faccio collegamenti con lui, arrivo a Santiago 8-9, Radio 4-5, perfettamente, e a Sassari così, ho detto qua. Ho detto, e si che prova a controllare su un capo d'antenna, così lui l'ho controllato così. Ecco l'indirizzo, guarda cosa ho fatto, ho cambiato tutti i cavi, tutti quanti erano la stessa cosa. Allora, per quello che voglio cambiare, voglio insistere a mettere il 213 e l'RG58 non lo voglio mettere, perché perde tantissimo. Altro che se sarei arrivato in inizio e non perdeva così tanto, mica ne ha perso 50, per esempio ne scendeva 50, ed è un po'. Chiedo perdono per il ping pong, continuo a non capire, scusami Gianni, ma non è una... Continuo a non capire come facevi a capire che alla fine del cavo tu avevi un calo di watt. Cioè, come hai fatto a capirlo? Intuizione, ma l'ho inventato da solo, ho detto per farmi controllare, e io queste cose sono attento. Sono uno di quelli puntigliosi che si guarda il minimo anche... Io continuo a non capirlo. Così mi sono andato così a controllare, perché io mi faccio ogni tanto, ogni settimana mi faccio dei controlli. Allora, come mai questi giorni così era tutto nella rosa? È per quello che sono andato a indovinare, a controllarlo su, capito? Se no non sarei mai andato, capito? Perdonami, chiedo scusa agli altri amici della ruota, ma materialmente come hai fatto? Cioè tu hai schiacciato il portante giù partendo con 100, sei salito su, ci hai messo il wattmetro e hai capito che stavi uscendo con watt in meno. Giù rimaneva mio padre, no, giù rimaneva mio padre, io ho detto guarda quando facendo a controllare? Qualcuno c'era in laboratorio, se no come faceva a controllare? E sono salito sul tetto, ho messo lo strumento e ho controllato ed erano completamente diversi dal suo laboratorio, la sua lanterna erano completamente sia stazionari che valori di potenza completamente diversi, ma da giorno alla notte. Adesso ho capito, scusatemi. Radio, visto l'hai, tu non ci saresti mai arrivato, adesso quando dobbiamo rosmettere l'antenna chiamiamo Gianni, perché bisogna farla sul tetto, capito Claudia? Senza ombra di dubbio, farò così come state dicendo. Va bene, dai, io vi saluto, rimango un po' in quell'ex, vi ascolto ma non riprendo. La più cordiale buonasera a tutti e buon fine domenica. Riprendi Fabrizio. Bene, riprendo io, guarda, io rispondo per la storia amico di Chiaramonte. Praticamente se tu vuoi la misura esatta delle stazionarie, se devi utilizzare un cavo lungo, in base alla frequenza, ci siamo 11 metri, quindi un cavo 11 metri e sai esattamente il rosso uguale. Poi se tu il rosso che è su in antenna, ce l'hai giù in stazione. Se poi tu metti un cavo da 15 metri, non è vero che aumentano le stazionarie o niente, viene spazzata la misura. Quando tu fai la misura in stazione e poi sali su, ti rendi conto che la misura è diversa. Ma non credere di molto, però è diversa la misura. Quindi se vuoi una misura veramente esatta, devi avere il cavo lungo quanto la frequenza in metri che tu stai utilizzando. Questa è la teoria. Si può fare qualsiasi prova e lo potete contattare. O poi non è che puoi stare i metri, cioè immaginati Claudio, potrebbe che inizia a avere un dipolo su ogni frequenza, devi avere tracco il cavo, sarebbe impossibile. Capita accordi, può essere che c'hai un punto stazionario, ma non succede niente. Per la frequenza tu intendevi la lunghezza d'onda, più che per la frequenza. Perché sì, se mi è permesso dire, cioè una volta lui è che con 11 metri non ci arriva, avrebbe dovuto usare multipli di 11 metri, quindi 33 metri, 44 metri, 55 metri. Sì, sì, in metri no, quindi alla fine il problema è mettere in causa, cioè tu sei solo 27 metri. Sono rilevanti, voglio dire, per poi alla fine. Ma guarda, il pelo dell'uomo non è quello il problema. Tu hai una calata di 28 metri, metti 28 metri, se tu vuoi la precisione, fai la precisione. Ma alla fine fai la misura che tu trovi in stazione, che trovi su, se la misuri come rosso. Infatti io è possibile che ci fosse stato anche qualche problema all'antenna, mi Gianni. Cioè nel senso che sai meglio di me che a seconda di come l'antenna, di come l'hai tarata, ti crei delle stazionarie. Va bene, dai. Comunque l'antenna la deve sempre, allora, la deve rosmettrare giù nella stazione vicino al baracchino, non sopra. Perché poi se no gli fa da spezzone, da prolunga, gli fa tutto da baracchino, a coso e da rosmetro gli fa tutto il cavo lungo a scendere giù. No, tu lo devi fare quello che c'è dietro l'antenna, lo fai da giù, deve essere perfetta da giù. Tu hai dovuto fare un controllo su, ma non può essere mai preciso, perché tu da su c'aveva uno spezzone lungo che scendeva fino dentro casa tua. Capito, lo spezzone per dal baracchino al rosmetro. Scusami, tu hai messo il piccolo spezzone e hai attaccato l'antenna, hai fatto cosa? Hai messo 45 cm attaccata l'antenna al rosmetro, così hai fatto già. Beh, però come faccio ad attaccare lo strumentino? Già il PL, no? Contattate il PL all'antenna, poi allo strumento e poi i 24 metri calati. Ma non è quello il fatto. Anche se non si fa così, a me non me la fa nulla. Ma proprio nulla, io ho guardato perché siccome in casa erano 1,3 e in base erano 100, 90-95, non è che ce l'ho proprio giusto, perché quello che ho preso io è un HP, no, un H, vabbè, 212. non è proprio preciso, però da 100 a passare 40-50 di fatto mi sembra un pochettino strano quello. Comunque sia, non mi piace fare RG-58 perché ci sono troppi cambi, troppa potenza e non li reggo. Solo per quello che ho cambiato il campo, tutto qui basta, poi se si faccia così o si faccia così, io l'ho fatto, non è che non è morto nessuno. No, non ti devi offendere, no, ma tu la cosa reale la vedi da giù, non da su, capi? Quello che voglio dire io, mia attenzione, non prendere come un'offesa, una, diciamo, per essere tu sicuro, preciso, devi fare da giù, dal baracchino a attaccarlo al rosmetro e l'antenna al rosmetro, ma non metterla su, capito? Giustamente se tu vai su ti dà un'altra misura, ma non è giusta quella che ti deve dare, capito? Già, quello che ti voglio intendo dire io, mia attenzione. Il proprio coso giusto lo vedi giù tu, quello che ti sta rendendo l'antenna, lo vedi giù, non su, salendo su, capito quello che voglio dire io? Tu hai voluto fare una verifica, vedere la selezione del campo, e va bene, però quello giusto è quello di giù, non quello di su, capito? La realtà è quello di giù, capito quello che voglio dire io, ho già. Poi riferito a come si chiama Fabrizio, sì, a volte bisogna rispettarle, ma anche per Antonio Brode, se tu ti passano 11 metri ancora meglio, se non ti passano 11 metri devi fare 22 metri. Poi uno che era molto esperto sopra queste cose mi ha detto queste parole a me: guarda, metti quello che ti serve dall'antenna arrivare dentro casa all'apparato, che va bene ugualmente. Tu scendi il cavo, quello che ti serve, che ti occorre giusto, che va bene lo stesso. Questo era un vecchio radioamatore, un vecchio tecnico che costruiva antenne, costruiva, riparava apparati, li modificava, lineari, lui lavorava prima di andare in pensione, faceva alimentatori, una ditta che costruiva alimentatori, lavorava lì come tecnico, radiotecnico, e questo era uno che ne sapeva già, la buona anima è Giancarlo, e mi ha detto sempre queste parole a me: Luigi, metti quelle che ti serve, va bene lo stesso. Dice, lascia perdere, dice sì, dice 11 metri, quello e quell'altro, tu metti quello che ti serve dal tetto a arrivare a casa tua, a dentro dove c'è l'apparato, e poi va bene lo stesso. Sì, perdonami, perdonate se non ho lasciato una parte di bianco abbastanza lunga. Lui è così, però il problema è questo, che tu devi fare comunque un cavo equilibrato rispetto all'onda di trasmissione. La stazionaria, il nome stesso lo dice che cos'è, diciamo sono le onde elettromagnetiche che l'antenna non riesce a dissipare, e non riesce a dissipare perché il sinusoide che fa a un certo punto non riesce ad essere completo se non a multipli di 11. Nel momento in cui tu ti rimani in antenna, quello lì ti scalda i finali, siccome un cavo di calata è al pari di un dipolo, si potrebbe comportare da un dipolo se è squilibrato, perché è vero che i dipoli si fanno con l'RG58, nel momento in cui noi gli mettiamo un cavo squilibrato, o sbilanciato meglio, sta già trasmettendo il cavo, cioè parte viene dissipata dal cavo, e questo non è un bene, perché deve essere dissipato tutto dall'antenna. Dopodiché Gianni avrebbe dovuto controllare innanzitutto se aveva un buon piano di massa, una buona messa a terra, e se l'antenna era stata tarata bene. Poi già, sicuramente non muore nessuno, ma parti dal presupposto che se ti stiamo dando dei consigli è perché ci dispiace sentirti uscire in un certo modo, visto che stai facendo molti sforzi. Quindi questo non è un accanimento, ma è il volerti dare sempre più consigli per poterti far sì che questa stazione definitivamente possa trasmettere bene, possa arrivare a Sassari e avere il piacere di fare un buon QSO con te. Comunque hai ragione, facciamo entrare il prego che sta spaccando qua il meter a me. Dai, facciamolo entrare. Fallo entrare, avanti il break. Avanti il break, avanti. Non vuole entrare, vabbè. Lo dicevo avanti perché era forte, per quello che ho dovuto bloccare, cambiare il discorso immediatamente. Comunque, non si è fatto avanti, dai. Ho seguito, no? E va bene, dai, già vedrò, dai. Quando finisco e ti accoglito, ti unisco, dai. No, ma cioè, è per quello che io ti ho messo a disposizione la mia persona, nel senso che se dovessi avere bisogno della mano, con piacere, cioè non è quello, ma credo anche Alessio, credo come credo tutti gli altri. Siccome non è la prima volta che andiamo a casa di qualcuno a piazzargli l'antenna, Claudio, Gigi, Vulcano, tutti quelli che hanno un minimo di esperienza, figurati, anche perché, come dicono, non si nasce imparati, anche se è un malapropismo cacofonico dalla lingua italiana, però se una persona ha bisogno, dobbiamo essere uniti, no? Ragione, hai ragione, comunque ribadisco di nuovo che c'è questo arrivato con potenza troppo forte, fatelo entrare perché ti ho seguito a metà. Avanti amico, fa entra se devi entrare. Avanti per il treco. neanche troppo, la mini pure, non tutta la bomba, la mini pure ha detto. Va bene, vai, io mi c'è rimasto un grido di Fabrizio, le prendi tu. E io non sento praticamente niente, lo sento proprio che c'è qualcosa sotto, ma impercepibile, praticamente per me è zero totale. Non so se lui mi ascolta, però strano, da Osilo, dove siamo noi, dove sono io, dovrei ascoltare la bomba, una mini boomerang, però comunque io dovrei ascoltarlo. Comunque, vieni avanti l'amico di Osilo e vedi un po', io non ti ascolto. primo la sta dando a 35 adesso, è che gli vanno via, come gli vanno via. Assolutamente, no, vabbè, ma sicuramente ci avrai i tuoi motivi, però, e soprattutto magari la voglia di modulare è stata tanta, quindi hai voluto acquistare piuttosto la boomerang. È una buona antenna, però è limitata perché va in una direzione sola. Se, a proposito, se lo sparviero è in ascolto ancora, ti devo portare stasera, se ci sei, quella cosa è qua. Riprendi o piegato. Io ripeto, non sento da quella 0000, magari verso di me negativo, ma niente. Avanti. Fabrizio, hai problemi al microfono? Posso? Prego. Forse non ti sei accorto che sono le 8:10, quindi la sera è già passata. Ma già lo sai che io manderò notte del pomeriggio. Me lo sono messo in macchina, però non sono potuto passare prima, dai. Nel caso, se non ti disturbo, ci vediamo dopo carica. Ci fumiamo una sigaretta e te lo passo, dai. Va bene. No, non so se sono in radio, fermo un colpo di telefono. Sono al computer, li sto ascoltando, ma non ero attento. Ciao, Dani, buonasera, ben ascoltato. Ciao a tutti. Ciao, Gaba. Fabri, ci deve avere qualche problema un cavetto, perché è importante esci, però ogni tanto si sente che manca di radio. Guarda, aspetta, adesso io tocco un cavo, dimmi se succede qualcosa. Sto toccando, forse questo, dimmi se è questo. Cappa, quello lì. Aspetta, sono un po' in quel rig, provo a controllarlo. Cappa, riprendi Gigi. Ci sta Fabrizio che sta controllando un po' la situazione, ci sta Lotte e Uranio da Ugilo e Gianni da Chiaramonti. Claudio sta facendo cose al computer, è in ascolto ma sta facendo cose al computer. Vai per chi vuoi, Lucaria. Ok, da buonasera a tutti. Bravo, ci sei. Ciao a tutti. faccio uno squillo fra 40 minuti qua. Gianni di Chiaramonti, guarda se mi ascolti. Attivo. Daniel. Tanto vai, c'è stato un break, avanti. Fabrizio, poi dimmi adesso come sto andando. Canto. Per adesso è perfetto, prova a matteggiarlo un po'. Ma adesso non può muoverlo. Lo sto muovendo, qualcosa succede. Negativo, negativo, va bene così, lascialo così. Che cos'era? Un cavetto di saldato? No, una cosa ho pensato, perché ho fatto una prolunga per allungare il microfono, no? Ho usato un cavetto schermato a quattro pulite, un po' grossettino, quindi magari è bastato come un po' la calza, magari ogni tanto toccava, però sembrava tutto a posto, dovrebbe andare bene, da, se da problemi poi lo ricontrollo come si deve. No, tutto perfetto in questo passaggio. Allora abbiamo Luigi Vulcano che è andato un attimino in QRX, Claudio che è andato in QRT, siamo rimasti Luca, Daniele, Fabrizio, Gianni di Chiaramonti e Uranio. Attenzione Uranio, se mi occupi. Roger, ma tu l'amico di Pattara, Stili Gonzale, ce lo senti? Roger, si è alzata un po' di propaganda. Attenzione Gianni di Chiaramonti, tu che riesci a copiare Stili Gonzale, vieni avanti. Attivo, fagli una chiamata tu, Uranio. Cappa Roger. Claudio Sparviero che è in QRT, ma qui è in QRX perché sempre ci guarda e ci ascolta, e Gianni di Chiaramonti, che spero non si sia offeso, e nel caso tutte le mie scuse. No. Perdonami, Euranio, spero che non si sia offeso neanche lui. Ah, perfetto, ok, mi sono scritto tutto perché sto facendo anche altre cose e quindi i nominativi mi sarebbero sfuggiti un attimino. Ok, mi è sembrato di sentire tutti, anche Gianni di Chiaramonti. Gianni, buonasera. Ciao, ciao. Prendo io. Gianni, ma stai andando via? Sì, stiamo salutando a Uranio, perché mi andava a diretta, è fortissimo, quindi quando puoi parlare sopra vogliamo, noi infatti ho cercato di muovermi il più possibile perché un po' va male, dai, io sono più distanto. Sì, sto andando via, dove? Sì, va bene, mi dispiace, buon caricabatteria, buon QRT, ci sentiamo alle prossime. Avanti, avanti Uranio per i saluti a Gianni. Siamo già dati perché noi arriviamo abbastanza bene, sono contento che ci siamo attivi effettivamente con una persona veramente alta. Comunque, K di Roger. Avanti allora Daniele, si è allontanato un attimo, avanti Luca. Riprendo io passo un attimino in QRX e vado a ricaricare. E K di Roger, allora siamo rimasti io e contiamoci, uno. Attenzione Antonio, Grote. Eccolo qua, mi hai sentito, me l'ha ascoltato, Leoncino avanti. Buonasera, chi c'è in ruota, non ho capito. Non ho capito neanche io chi è rimasto e chi non è rimasto, comunque per adesso sicuri siamo io, Gigi Vulcano e l'amico Uranio che è da Usilo e Salvatore. Avanti per chi vuoi tu. Avanti tu. Chiami Fabri. Salvatore, prendi. Ciao Giuseppe, buonasera. Dunque, dovremmo quindi essere io, Salvatore, Antonio, Fabrizio Chirigatto, un saluto a Gianni Chiaramonti che dovrebbe essere andato via, io Uranio di Osilo non l'ascolto, non ho capito se c'è Gigi Vulcano, Daniele e Luca, non li ho ancora sentiti. Comunque, buonasera Giuseppe. Ciao Salvatore, tutto bene? Ma sì, tu hai chiesto a quella persona com'era quella famosa storia? Lascia perdere, te lo spiego in verticale quando ci vediamo, dai. Sono successi casini e c'è una specie di denuncia in corso, capito? Ok, va bene, capito tutto. Ok, d'accordo, Antonio, vieni pure. Capi di Roger, come non mai Salvatore sei arrivato in un momento di bailame, nel senso che fortunatamente la ruota finalmente sta avendo un certo numero di persone, di adesioni, quindi rilancio e voglio vedere un attimino chi c'è, chi non c'è. Avanti Luca, avanti Fabrizio. Ancora ci sono, Ci hai citato la prossima mia chiamata, lo sai che sei il mio preferito. Avanti Daniele. No, è che ho voluto ricordare che c'era una pazza, dai, per chiamata interna e niente, adesso me la riciclamato. K di Roger, ti stavo dicendo, tutto bene? Finito il trabacco? Diciamo che oggi ero libero, ho approfittato a fare qualcosa qua a casa e quindi stavo sentendo un po' per domani come l'ho messo. Caparoggia, caparoggia. Vediamo un attimino, Fabrizio, riprendi. Riprendo io, Aldo. Capagli, riprendi. Positivo, un attimo, volevo almeno salutare a Salvatore e a Giuseppe Leoncino, che non sono riuscito, dai. Ciao Salvatore, ben ascoltato. Ho ben sentito, ho ben sentito. Riprendi pure tu. Positivo, dai, sta attento a quei ragazzi che stanno facendo i pavimenti lì, perché gli ho detto taglia il cavo, non ti preoccupare, dice c'è un'antenna col cavo, taglia, ho detto vai tranquillo, tagliate il cavo così non modula più. stanno facendo, non so cosa stanno per razzini, forse non stanno facendo, stanno facendo pavimenti. Scappa, sì. Sono miei figli quei due lì. Bravi, allora glielo... un occhio di riguardo. Ma no, guarda, c'è un'antenna del baracchino che scende, un capo che scende lì nel muro, adesso taglia, taglia, lo prende una forbice da portare e taglia. Anzi, dice, se ti serve una tronchesina te la do io. No, quasi sì, no. No, ma non vedete, c'è uno che c'è il baracchino lì, c'è l'antenna, c'è il capo che scende, dove stiamo facendo, ma non so, stanno facendo il pavimento, non vedo che razzino, stanno facendo le... Guarda, i terrazzini praticamente li stiamo rifacendo perché si stavano staccando calcinacci che avevano in testa la gente, i ferri dei terrazzini messi in maniera verticale così come si usava negli anni 60, oramai avevano espanso l'attacco e quindi avevano crepato il cemento e quindi abbiamo approfittato per tagliarli e metterli poi orizzontalmente e rifatto massetto e piastrellato ex novo. Positivo, positivo. No, se voi fate il nome mio, stai tranquillo, se voi dite Gigi Vulcano già mi conoscono tutti a me. ma non ne avete due figli. Allora, ci saranno già un po' di tempo che stanno lì, perché prima hanno fatto, ricordi, ti avevo detto, tanto quella Gruglia, Conservatorio, hanno fatto i pavimenti lì, da lì poi mi pare sono passati lì stesso, deve essere, hanno fatto quello del Conservatorio e poi stanno facendo quei lavori lì. Ho capito, pensavo che fossero ancora lì sul conservatorio perché ho visto che ci sono ancora delle transenne e quindi ho pensato stessero ancora lavorando su. Non hanno fatto i pavimenti, stavano lavorando dove c'è quel cavo dell'antenna che scende, capito? Forse non hai capito, dove c'è il cavo dell'antenna? Sì, no, ma dico, pensavo che stessero ancora lavorando su ai cappuccini, al conservatorio. Già finito il pavimento, già fatto là, ne sono passati lì a fare quei lavori lì. Sì. Infatti da noi dovrebbero ultimare la prossima settimana dovrebbero ultimare, oramai ho visto, sono state fatte tutte le fughe, forse manca uno o due piani dovrebbero mancare. Per l'amore stanno facendo bene questi pavimenti, le stanno portando bene queste mattonelle o cose che sono. Te l'ho detto, ho rifatto il massetto, ho rifatto tutto. Poi lo sai tu bene come sono queste storie, a distanza di tempo vedrai la bontà del lavoro. D'altronde immediatamente non si può apprezzare. Sembra fatto veramente bene, poi vai e pesca. Si scoprirà più avanti, dai. Sono molto ricercati questi ragazzi, non è perché siamo miei figli, ma sono molto molto ricercati per fare pavimenti, fanno la maggior parte dei cantieri grossi a Sassari, a Alghero, li stanno facendo tutti loro, ci lavorano loro, li fanno loro, tutti quelli di cosa l'hanno fatti loro, lì a Marco Longo, lì a Sassari, quelli via, per via, cos'è lì, non via Milano, no, dopo che era di PM Costruzione lì, scendendo dopo c'è il sanatorio lì, e hanno fatto grandi proprio cantieri grossi lì a Sassari, e Alghero ne hanno fatto con lo Torres, sono già da anni che stanno facendo quel tipo di lavoro lì, capito, sono diversi anni che lo fanno, sono molto ricercati, dico che sono molto molto ricercati. Vabbè, ti ringrazio per le ulteriori informazioni. Beh, dovrebbe allora andare tutto bene. E tu, trasporti, cosa state smontando? No, vedi, domani sono a Cagliari, dai. Domani ce ne andiamo a Cagliari, facciamo un viaggetto a Cagliari perché ne ho nostalgia, capito? Venerdì non ci sono andato e sento nostalgia adesso, capito? Dai, facciamo girare la ruota, se no rimangono... c'è anche Urania da Usilo, che tu forse non l'ascolti, se no lui si scoccia adesso. Però ho capito, Urania, se l'antenna, come ti ha detto Antonio prima, perché ce l'avevo anch'io, mini boomerang, e l'ho puntata verso Sassari, capito? sono Sassari io, se no non riceveremo Alghero, se la giravo in direzione Alghero riceveremo bene Alghero, la giravo a Sassari non riceveremo Alghero, quell'antenna, quella mini boom era uranio. Una cosa del genere, un arrivo come diceva studio prima, la Ringo so che sono delle buone antenne stesso, le affitte non costano molto, solo il discorso è trovarla sempre questa antenna, capito? Trovarla. Lateralmente alle cuffie stesse. Fabrizio. Attimo, ma non a me. A me? Cappa di Roger, ma stai studiando? Sì, che sto studiando. Bravo, quelli mi piace, ma stai facendo carica batteria adesso? No, ho finito, mi sto guardando il telegiornale. Lo sai che io ascolto molto. Brava, gava. E cava Roger, Daniele è rimasto? Andato a fare carica batterie, Daniele, ci sta sempre Uranio a Usilo, o Salvatore e noi, boh. Mi dovete scusare, anch'io approfitto per salutare tutti, ci sentiamo dopo alle prossime, se coincide. QRX per me, cioè rimango in ascolto, però nel frattempo, come Fabrizio insegna, faccio carica batterie. A dopo, riprendi Vulcano. Positivo, allora vado io a vedere se vuole qualcosa in pentola. Cavolo, perché io sono geloso, eh. Oggi non ho mangiato gelato, ho mangiato solo a pranzo e non ho mangiato altro nulla. Allora vado a controllare pure io. Dai, allora faccio bianco pure io, dai, vedo un po' cosa bolle in pentola. Salutando anche Uranio, se c'è ancora lì a Usilo, se mi ascolta, salutando Uranio, Salvatore, Giuseppe. Che c'è un ascolto, dai, anch'io faccio un attimo di bianco, mi lascio Giuseppe a te, Salvatore Uranio, tu non so Giuseppe se l'ascolti a Uranio, ascolti da Usilo. Negativo, non ascolto. Se lui Uranio va nella zona della montagna, può parlarci che lo riesco a tirare pure, capito? Ma lui a casa sua c'è la bubera, come fa ad andare sulla montagna? È già in montagna, capito? Uranio, la cosa è tripola, io sto facendo un attimo di bianco e gli altri due che ci sono non ti ascoltano, eh. Salvatore. Cappa? Sì, io però non lo sento, eh. Salvatore. Dai, io ti saluto, comunque non so se hai capito a questa parte Gigi Vulcano, Urania, sono Gigi Vulcano e qua c'è Salvatore, Giuseppe, Leoncino e tutti gli amicacci che non ti ascoltano ma ti salutano, capito? Ricordi sempre che c'è un figlio lì a Usilo, io che abito a Usilo, è sposato lì e abita lì a Usilo. Invece di campagna su della strada nuova andare via di Croce per andare a Nudo e entrare a Nudo, quello dove si vede una specie di serbatoio con pane, quelle che ci ha messo, sapete, quel pezzo di terreno verso lì. Se ce la faccio entro dopo, là, se ne ho voglia, se no tutto. tutti, ritenetevi salutati con buona cena e buon tutto. È cambiato accento oggi, salutami in Corea e ci sentiamo alle prossime, dai, vai sabato. Grazie, grazie. Gigi, dai, come detto prima, ci sentiamo alle prossime. Buon tutto, buon proseguimento e vedi di mettere qualcosa sotto i denti se ancora non hanno provveduto lì le donne dell'AREM. Ciao, ci risentiamo. Claudio, buonasera, ben sentito. Ciao Salvatore, ciao a tutti. No, non c'ho molta voglia da sé di parlare, quindi preferisco rimanere in Querix. Un saluto circolare a tutti, buona cena e buon proseguo di QSO. Ci risentiamo alle prossime. A te Salvatore. Caffa, mamma mia, si sente un umore nero e quindi capendo l'umore nero non si fanno altre domande. D'accordissimo, tu seguici quando hai voglia di intervenire, già sai come fare, premi lì quel pulsantino e vai col turbo. Giuseppe. Gamma, va bene, è così. Buona carica a Claudio, salutami Corea, dai, avanti. Sabato, ti voglio chiedere una cosa, per quella questione, poi te la spiegherò in verticale, quando ci incontreremo sono successi mezzi casini e dunque è partita una specie di denuncia e adesso mi avvalere è tutto quanto in mano all'avvocato, capito? Ah sì. Beh, è ovvio che in situazioni del genere quando ci sono interventi del genere, soprattutto anche, perché poi ovviamente interverrà anche l'ufficio del lavoro, penso. Vabbè, però casini, sono purtroppo quelle cose che succedono quando ci sono comportamenti del genere, purtroppo ci sei trovato dentro, ma non c'è da spaventarsi, No, io non sono spaventato, sono preoccupato perché dopo le cose sono intervenuti i carabinieri, capito? Ho dovuto spiegare la situazione, sono andato in caserma, mi hanno portato in caserma e ho portato il mio fatto, come era, e lui ha dato 8 stagioni. No, non mi ha mai assicurato e tutto quanto, e adesso ha detto che prendevano provvedimenti tramite l'ispettorato del lavoro. C'è un mezzo parente, glielo ho accennato, gli ho telefonato al cellulare e glielo ho detto, e dunque adesso saranno loro che a provvedere, capito? Sì, no, ma è questa la procedura. Addirittura potevi anche, o comunque gli interessati possono andare direttamente all'ufficio del lavoro e fare la loro denuncia. Poi è chiaro che le forze dell'ordine ovviamente intervengono nel momento in cui c'è anche una denuncia che gli viene fatta direttamente oppure su nota dello stesso ufficio del lavoro, che potrebbe anche aver ravvisato delle altre cose, quindi chiaramente devono intervenire e questo passo è giusto che lo facciano in questi termini. Io sono sceso giù, gli ho chiesto il BI e non tanto che io ho lavorato 15 giorni dentro quel locale, dentro quello stabilimento, e me ne hanno contato 13 giorni, capito? Dicendo che io, non altro che me ne ero andato, in questi due giorni me ne ero andato prima e a me non mi risulta, dunque adesso si vedrà tutto quanto in mano in tribunale e vediamo com'è la questione e le faccio pagare tutto quanto, capito? Tutto, da quando ho iniziato a lavorare da lui fino adesso, punto e basta. Ah, sì, no, ma è così, purtroppo è così la situazione. Purtroppo è così. D'altronde devi considerare anche un fatto che comunque la persona più spaventata deve essere il datore di lavoro, che ha messo tante di quelle cose che deve fargli diventare i capelli bianchi, se ce li ha neri e se ce li ha bianchi forse diventa calvo anzitempo. Sì, vabbè, ma sai cosa dice lui? Se lui non c'ha tutto quanto, non c'ha niente intrattato, dunque su quella cosa là lui c'ha le spalle coperte, però non mi ha mai assicurato e appunto perciò adesso vediamo, facciamo un giro di conti, quante ore ho portato tutti i fogli di tutti quanti le ore che io ho fatto da tale ora a tale ora e la notte vedi non viene, non vuole, non è conto di pagare il notturno che erano la bellezza, il notturno lo sai che viene pagato il doppio, però questo nel notturno non gliene fregava niente, dunque mi dava sempre quella cifra lì e allora facciamo anche conti su quello, capito? Ciao, ho capito. Anche se c'è uno che stava cercando di sovramodularti continuamente, mi dispiace per questo, ma comunque sì, oh Giuseppe, sono le solite furbate che tendono a fare i datori di lavoro disonesti, purtroppo. Sì, vabbè, sabato, però hai capito, io adesso sarà la mia avvocatessa portare tutto quanto, le carte che gli ho presentato, tutti i documenti, quello che lui mi faceva firmare, io ho voluto tutte quante le copie, che ho fatto una copia lui e una copia io, capito? Di quello che io quando ritiravo lo stipendio, mi faceva firmare questa cosa in nero, capito? Sì, me l'avevi già spiegato infatti anche la volta scorsa. Se ne assumerà le pagherà le conseguenze, si assume le responsabilità di quel che ha fatto e buonanotte. Comunque, e altre prospettive nel momento, nel frattempo? Niente, negativo, no, non c'è niente sabato, non c'è nulla, adesso è fatto che ha cambiato anche domicilio e c'ho la 630 qua in via Carso e ho portato tutta la roba che mi ha chiesto lei, i documenti, e mi ha detto che faceva di tutto per assegnarmi qualche posto di lavoro oppure di qualcosa di questi centri di persone anziani, assistenti anziani e così eccetera, capito? Ho capito. Ma dice vabbè, per drammatizzare, certo che è un bel problema. Ma per carità. Vediamo se è rientrato Fabrizio. Fabrizio. Come al solito mi spacca la smicca. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Buonasera Luca. Ciao Fabio. Buonasera anche a te. Ciao Giuseppe. Non so che ci sia, ce l'ho prima, ma stavo malando di messaggi. Ed eccomi qua. Mi preparo ancora a mangiare. Perché Luca ha fame. Allora, buona cena, buon tutto, dai. Ci sentiamo dopo, Luca. Ancora sono qua, beh, sabato. Dove andiamo, Luca? Come al solito, qui siamo a manetta. Aspetta, faccio anche una cosa, che tanto Giuseppe lo sento anche con la riduzione, e così ti sento anche meglio. Vabbè, novità. Ma è stato molto compresso la modulazione, attaccato sì. Come, scusami, ho sbagliato, ho abbassato. sembri un po' saturino, ecco. Faccio. Sono anche a mezzo al buio, ecco qua. Vediamo, forse così dovrei andare un po' meglio. No, negativo, sei sempre uguale. Forse non siamo troppo vicini, ma mi sembra strano, tu non mi ascolti a me, saturo, chiaro, come la radio. Vabbè, forte sarà forte, sicuramente. Quello non lo metto in dubbio. Guarda un po'. Prova. Siamo molto vicini, Lu. Io. Stefano, se vai copiando il quadro, stazione di Leoncino, cambio. chiasso, Leo C, ti sentiamo forte e chiasso qua. Gappa, come ti sto arrivando lì a zona Bizzio, Stefano? Santiago di 7, una radio di 5, da questa parte. Gappa, grazie Stefano per il controllo. Avanti Luca. Permita, bisogna che sta migliorando. Ah, vabbè. Anche io ho iniziato con, diciamo, macchini, microfono normale. Molte volte non potevo parlare perché non entrava Franco, non entrava Adriano, c'era un macchino volato, prendevo di colpi. E molte volte mi arrendevo, non riuscivo a parlare con nessuno, perché gli sbatti erano talmente fuochi che era una cosa allucinante. Ma adesso ho visto, piano piano mi sono attrezzato e non ho più di quei problemi lì. Certo, se si mette un canale a fianco mi disturba, ma se mettono due o tre no, assolutamente, posso parlare tranquillamente. Avanti. Oh signori, io mi devo metterci, ci devo mettere il trasatlantico in garage, che c'è una manovra un pochettino particolare e poi rientro a casa, dai. Vi saluto tutti. Ciao Fermo, rientro, buon tutto, dai. Buona giornata per domani, già anche a Ritta, anche a te buona giornata per domani, alla prossima, ciao, fatevi sentire ogni tanto, ci fa piacere, per me a me fa piacere, avanti Salvatore. Ciao gli amici, ben sentiti, chissà che ci ascolteremo in un'altra occasione. Buon proseguimento di serata e salutoni a tutti quanti. Giuseppe. Sì, ciao Stefano, salutami la tua 50 e fate una buona carica, è un buon 144, l'ho fatta, è un buon trabacco per domani, dai. Tutto ricambiato, ciao. Ciao ciao. Luca. Minuto. Com'è il segnale lì al monte? Come ti sto arrivando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, segnale 920 e radio 5, bella, verificata, ti pirate la retta. Scappa, va bene, dai. Ok, vai Salvatore. Eccomi. Qua. Ho fatto per la prima volta parlando d'altro. Mi sono avventurato avantieri nell'installazione di una parabola bidirezionale per linea ADSL, no? Quindi ADSL sul satellite, e sono rimasto veramente, veramente contento della performance. Gamba, quando vedi, cosa ti posso dire? Quando uno sa di quella cosa che ne capisce, è tutto da guadagnato, capito? Ciao. Oh Giuseppe, comunque considera che è la prima volta che la installo, una bidirezionale, però niente, a me fa sempre, mi ha sempre incuriosito e poi mi ha sempre stuzzicato il fatto di provare a fare delle cose nuove che hanno a che fare con le trasmissioni dei dati e comunque con i flussi dei dati che non siano i canonici, i tradizionali su linea ADSL via cavo. Questa era una condizione un pochettino disperata di un collega d'ufficio che ha un'azienda agricola e aveva bisogno di fare un monitoraggio in remoto sul sistema di videosorveglianza. E siccome lì la Telecom non ha ancora intenzione di portare la linea DSL e le linee di telefonia mobile UMTS lì praticamente sono inesistenti, si pizzica ogni tanto Vodafone, ma proprio è ai limiti del segnale, quindi non va bene. L'unica alternativa che rimaneva era questa di una parabola bidirezionale, ma la performance è stata fenomenale, veramente fenomenale. Luca. Allora io niente, stavo pensando di dare questo qua però senza microfono, non ho nessuno. Ok. prendere quello superiore. E lo faccio, lo farò, lo farò. Tanto so che già a chi chiedere, ecco. Non ho problemi per quello. Solo lui mi può aiutare, non ho altre persone. Perché lui compra, cioè, mi fa prendere cose messe bene, non scaccializzate. Tutto qua. Del microfono. Cioè il microfono? Stavi parlando del microfono. Io come dico la radio la cambio. Quando ora più superiore. Prendo l'accordatore interno, diciamo. Il microfono, l'MP4 non lo do a nessuno, il bar è qua. K, ma sempre una. Cosa hai intenzione di prendere? Una Kenwood? Modelli nuovi o qualcosa di comunque performante ma già fuori produzione? No, io non dico fuori produzione, però se trovi quello che c'è la persona in gamba che non l'ho mai toccato, si può anche comprare. Ma tu saresti intenzionato su questa seconda strada? Ma certo, c'è una seconda strada, in che senso, scusa? Non comprandolo nuovo, ma prenderlo da una persona che casomai lo sta vendendo il proprio e che però è messo bene perché non ci ha mai appuntato dentro, dico. Ma solo a caso mi posso rivolgere io per queste cose, non ad altre persone. Ho capito, no, ma era... volevo capire se era per caso che stavi facendo una ricerca su internet di qualcuno che stava vendendone di seconda mano, oppure se sapevi, ecco, già chi rivolgerti, ecco, di persona. Però questo paese non lo fanno più, non esiste più da un dì, solo verrebbe a costare qualche milioncino, anche di più. Ho capito. Ma chissà che un giorno anche io non riesco ad adottarmi di apparecchi del genere. Se non vuoi non c'è problema. Però piano, tutti i soldi da parte. Questo praticamente è quasi venduto. Ho trovato la cliente, non so questo qua è nuovo, se non trovo bene. Io non gli ho mai fatto niente, era di Claudio questo. Ma ci ho tenuto tutto. È una roba sua. Io non ho mai toccato, mai. Sono pulito, basta. Pappa. Allora un nome, una garanzia. Il 140 c'hai tu? No, 140. Beh. No, io ho altre idee, sinceramente. Non in fatto di apparecchiature. Ho altre, diciamo, priorità. Quindi prima devo mettere a posto altre cose e poi proprio lasciamo gli sfizi alla fine. Io sto pensando di impegnarmi un po', sarà molto difficile, molto, tanto, per la patente, ma è molto difficile per me. No, quella è una cosa che voglio fare, io oramai sono già circa 10 giorni che sto aspettando il rientro del diploma, che me lo spediscano dall'Università di Pisa, dove mi iscrissi tempo fa, però non l'ho mai ritirato, e quindi mi serve quello per mandarlo giù a Cagliari. Per la richiesta, inoltre la richiesta come perito industriale, quindi non si dovrebbe sostenere l'esame. Sto aspettando che mi arrivi, ormai dovrebbe penso arrivarmi la prossima settimana, perché insomma i tempi sono già maturi, e così regolarizzo anche l'utilizzo delle in frequenze che non sono proprio della banda cittadina, in modo tale da evitare qualsiasi problema, perché non mi va. E un domani poi chissà, poter utilizzare al meglio anche questo patentino con delle radio che sono sicuramente più performanti del mio presidente. Da 5 minuti di bianco per me caso carica Remita, ci sentiamo dopo, dai. Ciao Luca, ciao Salvatore, bianco per me, dai. Giuseppe, buona carica, Giuseppe, va avanti. Ok, Giuseppe, dai, buona carica, nel caso ci sentiamo dopo. Buon proseguimento. Ma comunque ho capito, dai, no, buono. Buono. Ok. Niente, dai, così... Lì, tu già... Non fai esame, è già un buono quello. Ma anche faccia non sono sicuro che passi, non... se uno si impegna, no? Per me sarà molto difficile, molto, molto, molto, molto. Oh, che voi però, guarda, posso dire questo, che mi ha lasciato un po' perplesso la risposta del libro, l'ho telefonato giù a Cagliari, che mi ha detto sì, lei comunque ci manda il diploma, poi vediamo noi di valutarlo. Quindi, boh, spero che siccome vedono che il mio diploma è dell'anno zero, non mi dicano, oramai è passato troppo tempo. E vabbè, aspetta che ti diano quello che... Cioè, ti spetta sicuramente, non ho capito. E vabbè, piano piano, dai. Sono voi, non dai. Certo, se te ne freghi, non avrai mai niente. E poi piano piano mettono i soldi da parte, ti attrezzi. Le radio che ti servono, ovvio, no? Senza spendere tanti soldi. Se tu vuoi una di Claudia, allora ti mette le mani in testa, se la casa sua. Vabbè, certo, per carità, poi sai, le passioni è bello coltivarle, gli interessi e queste cose qua, però ecco, questa per me è proprio una è proprio un piacere ed è un è a corredo di tante altre cose, ecco. Io, ecco, una cosa ad esempio sul quale spendo tantissimo sono programmi e manuali di informatica, quelli se monetarizzassi il cartaceo che il software che ho qua a casa, probabilmente di radio me ne sarebbero uscite tantissime, però gli interessi sono chiaramente differenti. I fini sono completamente differenti, per cui tempo fa mi sono potuto permettere l'acquisto di questa e per il momento sono più che contento, capito? Quindi niente di domani, però chissà. E vabbè, piano piano, dai. Ti posso dire una cosa, quando io ho iniziato, avevo lasciato 10 anni, poi via, cioè, TV, sul babbo, mi tagliavo il cavo, poi alla fine mi sono stufato, ecco, fatto passare ogni volta sul tetto, cambiare il cavo, 3 volte ho fatto la giunzione, la quarta volta ho dovuto cambiare, poi alla fine mi sono arreso e ho attaccato tutto. E sono passati, se non ho 10 anni, dopo ho ripreso, non lo conoscevo di persona, pensa tu, ho ripreso con, diciamo qua il baracchino, un Avant 34 che mi era stato regalato da Franco, e riuscivo comunque, vabbè, però ho molti colpi. Quando poi ho conosciuto Claudio, no? Sono andato a casa sua per vedere la sua stazione. Tu nota la differenza, c'è una differenza grande, ci sono un macchinetto e lui, tu mi la radio, cioè, sono entrato, e dove c'è questa cosa? Chi se lo immaginava, no? Io non mi immaginavo una cosa del genere, assolutamente, sono rimasto secco. Me l'immagino, deve essere un bel vedere. Luca, io ho bisogno di fare bianco, perché mi hanno già richiamato lì dalla cucina, da una moglie. Sì, sono qua anch'io, adesso devo andare a mangiare. Non è la prima, adesso ci vado, dai. Quindi, niente, ci sentiamo più tardi. Lasciamo la prossima, vabbè, buona carica e niente. Ciao ciao. D'accordo, ok, dai, nel caso se ci sei e se riesco ad accenderlo, ci risentiamo più tardi. Ok, buona carica e buon tutto allora. Ciao Luca, ciao.